Vai. Cioè, dire, in realtà per me è andata almeno bene. Al quinto prendo un altro attacco. Siamo in diretta. Oh. Siamo in diretta con la maledizione di Katta. L'ho detto la sigla. La sigla la mettiamo dopo. Ah, sì, è vero. Cioè, nei telefilm prima c'è il riassunto della puntata precedente, poi c'è la sigla. Lo facciamo sulla sigla. Ho un incipit della puntata che sta per avvenire, che ti lascia lì. Comunque, noi siamo Tycoons and Dragons. È già giustizito. Bello. E ci potete seguire sui canali social di tutti i nostri giocatori appena si mettono il cellulare a guardare le cose, come faccio a non distrarli? Vorremmo fare l'Instagram di Tycoons and Dragons. Diamo il bentornato a Luca Lazzarini e la sua simpatia. Non scusate, quella non l'abbiamo mai incontrata. Più che ti ho pensato a me. È vero, però. Con me a Delta Corchi da Bologna abbiamo anche Stefano Gamberoni, Giulio Bosi e il master Enrico Catabriga. Siamo in astinenza, volevo dire in attesa. Bella tornata a casa, Francesco Arcidiacolo che ci raggiungerà, mentre salutiamo Edoardo Saladini che non parla. Sta facendo domenica, porchetta. Domenica possiamo... non ci sto. Non ci sta facendo della porchetta, mi hanno detto. Posso aggiornare le statistiche, la mia quarta consecutiva. Te l'avevo detto che adesso neanche devi portare sfiga che domani il mondo finisce, quindi. Però potrò dire di avere una quarta sessione. Come forse ormai già saprete, noi giochiamo a Dungeons versione 5.0. Questa è la campagna di Katta, tanto che si chiama La Maledizione di Katta, ma i maledetti siamo chiaramente noi. Non vedo. E stiamo seguendo questa avventura che fa riferimento a un'avventura da lontano, vampiri e altre creature più forti di noi, molto più forti di noi, assolutamente. Hai fatto il community day? Sì, bravo. Katta, come vuoi gestire il riassunto dell'ultima sessione? Ma mi sembrava partito benissimo il caro Atanas, esempio. Fuori onda, non l'avete sentito, ma era partito nelle puntate precedenti. Se ne fa, sta per sport. John Cena. Previously on Katta's Curse. Esatto. Allora, com'è che si chiama la città? Varrakis. Vallakis. Era partito bene. Io non ci sono stato, non lo so come. Vabbè, so cosa è successo ora. Le coordinate geografiche. La verità. Era la sigla che volevi. Perché la sigla è questa? Ascolta il testo. Sì, no, lo conosco. Siamo arrivati a Vallakis, ma questo ce l'avamo già arrivati l'altra volta. In breve, l'ultima volta dovevamo recuperare delle reliquie rubate dalla chiesa da qualcuno, abbiamo fatto la nostra indagine. No, ma le aveva già recuperate. Sì, vabbè, ma questa è una... Ma soprattutto la metà delle reliquie mi ha dato tutta la sala. No, non ha preso. Ne ha presa una. Sto ragionando, sì. E Adam ha detto che l'ha rubata. Comunque, io non lo so. Le reliquie che proteggono la città erano, no? La chiesa. Devi stare ridendo per la sigla, scusate. La puntata scorsa si è concentrata sul piano per uccidere il progetto. Siamo perso. Dovrebbe cantarla qualcuno di noi. Perché come penitenza quello che ha fatto. Cosa? No, per fortuna io non lo so. No, ha fatto bene. Cioè, io ho detto, guarda, ragazzi, fate ste cazzo di ripare, ma non fatevi vedere da me. Comunque, la puntata scorsa si è concentrata sul nostro piano per uccidere le progenie vampiriche. Piano che appariva geniale. Scartata l'ipotesi iniziale mia di bruciare la casa in pieno giorno, che col senno di poi poteva essere più valida. No, era valida comunque. L'unico intralcio sarebbe potuto essere che qualcuno l'avrebbe spento e ci avrebbe arrestato. Era valida, ma Katta ci aveva fatto capire che non potevamo fare. Ma non è vero, ha solo detto occhio alla guardia cittadina. No, non ha detto neanche quello, sei tu che ti lamentavi della guardia cittadina. Aveva detto. Stronzo, aggiungerei. È vero, io solo aveva detto. Cioè, noi abbiamo fatto irruzione in una casa, abbiamo rapito una persona, la guardia cittadina non ci ha detto un cazzo. Katta. Dovevamo bruciare una casa deserta, ma la guardia cittadina, cioè, non mai. Katta aveva già cominciato a dire, no, ma per fare un fuoco ci vuole un albero. Per la prossima sera. Ma infatti. E ci vuole un. Ma dico, scusami, la casa. Ma io avevo chiesto, infatti, dove prendere l'olio, che poi abbiamo comunque preso. Esatto, ma il negozio è chiuso. Poi faccio, ma scusami, la casa di cosa è fatta? Di legno, legno abbastanza ignifugo. Sì, però è un legno che poi comunque poi arriva il prete. È stato trattato. Ragazzi, non so se è il caso, comunque c'è la guardia che gira, il fuoco ci mette tanto a bruciare, così di qua. Ma perché tu sei abituato a dei master che vogliono che si faccia quello che dice. Onestamente lui no. Onestamente tutte queste cose non era non era previsto nessuna delle cose che volevamo fare. Ma penso che dall'inizio della campagna non aveva previsto. Comunque onestamente tutte queste diciamo, puntualizzazioni oppure facile, quando non è previsto cose uno scontro, stupide le diceva Sceo in realtà, cioè era Sceo che era quello che diceva è il fuoco, come faremo ad appiccare il fuoco, una casa di legno in cui possiamo entrare e spargere l'olio. Io non ho detto questo, io ho solo detto avvisiamo la guardia cittadina che non vada subito a spegnere la cosa. Ma certo, perché in un villaggio di merda fa tutto di legno, così lo spengono il fuoco. Allora ci siamo, cioè Roma quando sì, Roma quando è bruciata l'ha spento così il fuoco proprio, No, allora, Roma è ancora lì, però. Scusami, ma non capito, l'hanno ricostruita. Siamo in diretta. Certo che siamo in diretta. No, siamo in diretta, non siamo in diretta. Vabbè, rifare tutto da capo. Vabbè, tanto non abbiamo detto niente. Io vorrei risentire la sigla, però. Allora, non siamo in diretta, ovviamente. Non siamo in diretta? Siamo in diretta o non siamo in diretta? Eravamo in diretta sul coso. Se siamo in diretta, ditecelo. Sul podcast. No, sì, sì, ma perché avevo cliccato, pensavo ci fosse. È il computer che è vecchio. No, è lo speciale. Va bene, ora siamo in diretta. Scusate, eravamo soliti fare lo speciale per il podcast. Oggi quelli del podcast hanno avuto. Sì, solo che il podcast non va in onda da mille anni. Comunque vabbè, lasciamo perdere. Amici del podcast, scusateci. Va bene, siamo in diretta per davvero adesso, come Tycoons & Dragons. Ma scusa, metti la registrazione del podcast così è già la sigla. Devo rimettere la sigla. Certo. Siamo in diretta. Beh, la sigla è fondamentale. Se no ce la canta Giulio, se preferisci. No, io devo fare già il riassunto. Ma la canta Catta che l'ha voluto lui. Posso fare il riassunto musicale? Dovremmo cantarla noi. Vabbè, piccolo recap. Come Tycoons & Dragons ci potete sempre seguire su social Tycoons & Dragons e RipGDR. Diamo il bentornato a Luca Lazzarini con noi. Come da qualche tempo abbiamo. Avevo detto che dovevamo farci Instagram. Stefano Gamberoni, Giulio Bosi, Master, Enrico Calabrini. I nostri giocatori si distraggono sempre, che non mi distraggo io. Sì. Aspettiamo Francesco Arcidiacono e salutiamo. Aspettiamo anche le pizze. Edoardo Sallodini e aspettiamo anche le pizze. Che arriva. Pizze. Come si chiama la pizzeria? Fagli una cattiva pubblicità. Non prendete la pizza dalle pizzerie. Dalle pizzerie. Non usate Just Eat. O meglio, prenotate su Just Eat più o meno le 6 del pomeriggio. Del giorno prima. E quindi, tra l'altro sono due pizze. Non vorrei che vi ingannassi il numero dei presenti. No, sono due noi due dobbiamo mangiare. Cazzo ci avete messo? Comunque giocheremo. Io ho preso una diavola. Però hai tolto delle cose. E una giusta. No, deve andare fino a... Io ho preso una diavola semplice. No, quello te l'ho chiesto perché la stavo per prendere da mascarella, dove praticamente la diavola ha 26 le olive, la roba varia. Aveva peperoni, cipolla, ho detto vabbè. Non prendetela da mascarella. Parte. Perché fa schifo? No, non lo so, per dire alla gente. No, non prendete la pizza dalle pizzerie. Dalle pizzerie. In generale. Prendetela dai kebabari. Prossimamente vi daremo una lista di pizzerie. Sushi. Sì, ogni volta aggiorniamo una lista di pizzerie da non usare. No, allora, da principio non usate le pizzerie. Noi vi daremo una lista di pizzerie invece che potreste usare prossimamente. Che ci sponsorizzeranno però. No. Ma tanto per ora nessuna pizzeria. Quindi... Comunque, la maledizione di Catta. Oppure non ordinare il cellulare di Messi, che può essere un'alternativa. E noi stavamo riassumendo quelli precedenti con Giulio. Sì. Allora, dove sei arrivato? Nella puntata precedente ci siamo concentrati nell'astuto piano per uccidere le progenie vampiriche che avevano fatto piani per togliere le reliquie alla chiesa per uccidere la gente. Cosa che cosa che condivisibile avete fatto anche voi. Che può essere condivisibile, cioè, nel senso. No, tu sei un mostro che uccide i mostri. Le persone a quanto pare di questo posto sono abbastanza rompicoglioni a farmi. Sì, è vero. Rimettiamo la sigla. Comunque, tutti dicevano che era assurdo. Non è questa. Pubblicità. No, pubblicità, dai, ragazzi. Comunque, allora, dopo aver scartato il piano di bruciare la casa con le progenie vampiriche di giorno perché Sceo. No, non è detto così prima. Ehi, la diretta deve essere uguale. Non vabbè, va bene. Anzi, scusate, perché Garrosh, oddio le guardie, come faremo col fuoco, Poi ce l'ha detto esattamente qui. Esatto. No! Sì, è il nano barbaro più lamentoso della storia. Tra l'altro intelligenza 8, tutte queste rimostranze. Beh, però, non so da dove però riesca. È un personaggio di Sceo, quindi ci sta. Vedi che ha capito? Oh. Vabbè, ma intelligenza 8 dovrebbe dire... Oh, la mia caccola del naso non è abbastanza buona. Questa non è una mentira che ci potrebbe stare. Cioè, mi sa. Comunque. Alla fine... comoda la caccola. Non so, è il nano barbaro che si mangia le caccole del naso. A quanto pare. È nella... hai mai provato? Se leggi è nel background. Sì, sì, hai mai provato? Allora non commentare. Avevo 5 anni probabilmente. Sì. Non ti ricordi. Comunque. Per cosa? Ma tutti i bambini si mangiano le cacque nel mezzo. C'è chi lo smette però, non è facile. Cazzo buono. Tutte salate, comunque. A parte questo. Vabbè, quello è... direi di andare oltre. L'orrore questa sera ha molta fame. Esatto. Il piano... quale esco dal naso di Giulio? No, vabbè. Il piano geniale. Marchio registrato sul piano geniale. Alla fine era... irretire i vampiri dentro la chiesa piena di gente, poi chiuderli dentro, far entrare le Reis con le reliquie mentre loro erano dentro, così loro erano sparati contro le porte della chiesa che nel frattempo avevano messo dei paletti, e poi fuori avevamo fatto un cerchio di fuoco, avevamo pronto un barile d'olio da buttargli addosso in modo da fare una sorta di inferno di fuoco, esatto. Ah, doveva... cioè, sembrava funzionare. Era un gran bel piano. Sì, sì. Tu sei d'accordo? No, nella teoria era un buon piano. Era un buon piano. Vabbè, in tutto questo io ho torturato qualcuno, ma... sì, il vecchietto che era combutta con le pressioni vampiriche. Sì. E a un certo punto faccio, gli taglio i tendini delle gambe, il prete. No, non farlo, ok, esco e gli taglio i tendini delle gambe. Comunque. Gli hai tagliati alla fine. Sì. Infatti, sì. Quando poi nella chiesa abbiamo fatto tutto, vedi che non ha mai tentato di scappare. Anzi, la prima cosa nella chiesa, mi serve, perché l'idea iniziale era sfruttare il tizio con i tendini delle gambe tagliati per irretire ancora di più i vampiri. Perché in teoria io avrei voluto sgozzarlo, in modo che i vampiri vedessero il sangue, entrassero distinto nella chiesa. Però purtroppo non è andata così. Cosa? E tu questa cosa non la sapevi, per questo eri fuori dalla chiesa. Comunque, il piano purtroppo non è andato perché come previsto. Perché sempre conto corrente tu? No, no, ma alla fine sostanzialmente Giulio l'ha sempre vinta. Però. Le pizze! Oppure o Arci. Arci con le pizze. Arci con le pizze. Devo prendere buon pasto. Secondo piano? Se li prendono. Vabbè. Io ho scritto che li prendono. C'è scritto che li prendono. Anche l'altra volta ma ti ha fatto delle storie. Forse è per quello che non te la volevano portare. Che stronzi, non accettano i buoni pasti. I pellegrini. Comunque. Pellegrini è il nome dei buoni pasti, non era un'offesa verso loro che non accetta. Vabbè, noi avevamo fatto tutto sto piano geniale, solo che i vampiri sono arrivati e hanno sparaflesciato degli stormi di pipistrelli dentro la chiesa. La gente si è presa dal terrore per dei cazzo di pipistrelli. Si è cioè proprio andata come un treno verso l'uscita dove c'era del fuoco. Anzi, no, ancora non c'era il fuoco. Loro avevamo munito ogni. Hai 10 centesimi. Può essere. 10 centesimi. Ogni popolano era munito di una torcia pensando fosse una buona idea. Vado avanti io intanto che pagano le pizze. E o facciamo una pausa, tanto Giulio vorrà controllare quello che ho detto. Quindi fai quello che vuoi. Oh, ottimo. Allora, in pratica i popolani mentre in correvano. Io sono a livello 7. I popolani impauriti correvano verso l'uscita. Uno di questi è inciampato e caduto sull'olio che avevamo preparato come trafola, quindi ha incendiato lui, i vampiri e tutti gli altri popolani che si stavano gettando fuori. E a quel punto. Ah, a quel punto siamo entrati tutti di faccia nella chiesa a turno, perché tanto era inutile stare all'esterno. Siamo entrati. Non cercare complicità, io no, non c'ero. Siamo entrati. Siamo entrati e abbiamo cercato di convincere i popolani ad entrare. Qualcuno l'abbiamo convinto, qualcuno no. Abbiamo sbarrato le porte dietro di noi, quindi sacrificando il popolano fuori di fatto, giusto? Uh-huh. In quel momento i popolani hanno continuato a spingere verso l'uscita, schiacciando di fatto Giulio e Vez. Verso l'uscita che ti ho detto non cercare complessità con me. Sei il mio pubblico, non c'era. Ti hanno schiacciato contro le porte muniti di paletti che avevamo messo. Quindi i popolani hanno schiacciato contro i paletti, Giulio. Anzi, Atanas. Quindi è stato molto divertente. Madonna. Dai, lascio continuare Giulio che. Molto bene. Molto che mangerò la pizza. No, perché è il suo momento. Ti ha preso la pancetta. Okay. Ho raccontato dopo no, che. Spec. Cos'è? Ma la diavolo. Loro hanno dato fuoco. Sì, sti coglioni. Noi siamo rientrati e abbiamo chiuso no, la porta. No, non hai raccontato bene. Questi coglioni. Te l'ho detto che correggeva. Te l'ho detto. Non è una cosa in più, l'ho chiesto l'origano. E non c'è. Beh, Rezza, anche tu l'origano. Cioè, beh, sembra carino. Cioè, ti hanno portato in fretta, vuoi anche l'origano. Tu come sei messo sotto a posto, vero? Sì, sì. Che non. Perché ti ho preso? Aspetta che ti porto. Giusto, grazie, grazie. E origano. Comunque. Sti coglioni a cui avevamo dato delle torce, al posto di difendersi, attaccati a degli sciami di pipistrelli. Tra l'altro, esatto, c'è una persona con una torcia in mano, fai così ai pipistrelli. Si sono gettati fuori. Un paio sono caduti e hanno dato fuoco all'olio che avevamo messo lì, quindi hanno iniziato a bruciare. Grazie. Nel frattempo i vampiri sono scesi lì e hanno iniziato a ucciderli. E sti qui con, da una parte... Ah, in tutto questo poi io ho preso un barile pieno d'olio e l'ho buttato in mezzo al fuoco per fare una mega esplosione. È vero. Se vuoi spiegare in termini di gioco cosa faceva il fuoco a quei vampiri? Abbastanza nulla. Mentre i popolani... Poi però abbiamo scoperto che se l'avessimo fatto con l'acqua santa sarebbe stato molto più efficace. No, esatto, perché loro rigenerano i punti ferita a meno che non usi l'acqua santa. E tutti noi abbiamo dell'acqua santa nello zaino. Ma più che altro eravamo in una chiesa, bastava dire prendere i barili d'acqua e dire al prete benedicila. Sì. O forse puoi farlo anche il padre. Giulio. Però vabbè, col senno di poi. Esatto, cioè, basta. Diciamo, sono piene le fosse. E letteralmente. Non è letteralmente. Se non è morto lì di Boggi c'è un sacco di lavoro da fare. Gli darò una mano, direi. Mi croce e vivo. Purtroppo. Dai, guarda come sarà felice. Grazie. Gli darò una mano, mi sa. Vabbè, gli abbiamo anche fornito del lavoro, non che si lamenti. Adesso gli uccido i fratelli, il fratellino e la sorellina, così è un po'. Comunque. Come provincia. E quindi i popolani, nonostante da una parte ci fossero dei pipistrelli e dall'altra ci fosse un inferno di fuoco e dei vampiri che li sventravano, hanno continuato a optare per l'inferno di fuoco e i vampiri che li sventravano. E soprattutto c'era anche Giulio e Bezzo, cosa più pericolosa in assoluto. A un certo punto... E infatti, a un certo punto... A un certo punto io butto i quadrelli alla balestra nell'acqua santiera. 17! 18! Butto i quadrelli di balestra nell'acqua santiera, poi li riprendo e inizio a sparare quadrellate di balestra santificate contro i vampiri. Però Vez mi chiude la porta per non far scappare i popolani. E io allora ne riapro un'anta per continuare a sparare. E tutti questi popolani continuano a voler uscire da dove c'è. No, si prendono i quadrelli. No, aspetta. Dove c'è l'inferno di fuoco e i vampiri. No, solo che ci siamo io e Ward, il paladino, davanti alla porta. Perché davanti a un'anta c'è lui. A un certo punto ci siamo messi d'accordo sul fatto che doveva stare chiusa quella porta, però. E dall'altra anta c'ero io. Che avevo. Che non avevo proprio spalancato, avevo appena aperto per poter sparare. Sti popolani continuano a spingerci. E ci spingono sui paletti della porta. Senti, che stai facendo una foto alla pista? No, condivido su RIP GDR. E ci spingono contro i paletti che avevamo messo nella porta, facendoci qualche danno. Tipo uno o due. E a quel punto io ho ucciso quelle persone. A quel punto io mi sono girato e ne ho ammazzati due. Solo due. Ho due attacchi, vedi così non potevo fare. Cioè, avevo pensato di usare Second Wind per fare il terzo attacco e cederne un terzo, però vabbè. Ho detto limitiamoci. Ma ha funzionato. Più terrorizzati da me che dai pipistrelli, finalmente hanno smesso di uscire. Allora, e sono rimasti dentro la cazzo di chiesa. Sanno che sono più terrorizzati da te che da dei vampiri. Cioè a te ok, si torna indietro, però al vampiro gli andavano in braccio. Ne ho aperti ai due vampiri, ai vampiri infuocati andavano. Ma secondo me perché vedevano sta luce del fuoco e loro dicevano vabbè, e sentivano delle urla. Questo non gli disturbava particolarmente, non so perché. Probabilmente perché sono costretti sempre a essere felici, quindi loro in verità volevano lanciarsi nelle urla. Sono morti però felicemente. Poi quando io ne ho sventrati, in realtà l'ha fatto per loro. Esatto. Quando però io ne ho sventrati due hanno detto aspetta, se continuiamo ad andare lì quello lì ci sventra. E vabbè, ha funzionato. Poi abbiamo ucciso gli sciami, i pipistrelli, e adesso siamo lì in un bagno di sangue. Comunque in realtà da quel che ho capito siamo comunque stati sotto la soglia del numero di morti, giusto, Katta? Cosa? Cioè, sì, sono morte solo 17 persone. C'era una soglia sotto la quale dovevamo stare, ci dicevi, e per poco ci siamo. No, non c'era nessuna soglia, semplicemente la maggior parte delle persone perché avendo chiuso la porta non c'era la soglia. È morta meno di un terzo. Sono morte sulla soglia. Sono morte meno di un terzo delle persone presenti. Ora, che di questo del quasi terzo che sia morto, la maggior parte è morto per colpa nostra. Tutte morte per colpa nostra, perché se noi non facevamo nessun piano, lasciavamo le reliquie dentro la chiesa come il prete ci aveva chiesto, nessuno. Allora, il prete è un pusillanime, sono delle casse progenie vampiriche, le uccidi. Sì, ma non dentro la chiesa con i fedeli. Era un piano geniale. Buono. Sì, ma questo che andava in giro per la città a uccidere gente. Molto bene. Cioè che in realtà non abbiamo ucciso le progenie. Esatto, infatti no, nessuna, perché abbiamo graffiata una. Perché rigenerano un casino ed erano quattro, abbiamo scoperto che sono grado di sfida 5. Subivano meno danni da fuoco di quanto rigeneravano, quindi non abbiamo fatto niente. La cosa più importante però della sessione è che siamo saliti di livello. Nonostante tutto, aggiungerei. Probabilmente danno più riusciti a prevenire. Aspetta, ma danno più expo i popolari. O l'uccisione di qualcuno nella chiesa. Vabbè, è riuscito a prevenire un massacro o l'uccisione di qualcuno nella chiesa. Beh, in realtà sì, ok. Tutto nasce dal fatto che noi portiamo le reliquie fuori dalla chiesa, tutto nasce da lì. Io ho ucciso due persone nella chiesa. Sì, che okay, qualcuno presente. Forse ne ucciderò chiesa, delle altre. Grazie a voi comunque non è morto. Aspetta a dirlo. È ancora presto, ma comunque ad oggi al momento abbiamo chiuso le porte, ucciso gli sciami pipistrelli. E se ricordo bene, i vampiri, le progenie se ne erano andate. Ah, forse. E siamo lì con i tizi che non so bene. E io, abbastanza incazzato con il prete e con tutti i cittadini di quel posto. Il nostro gesto. Sì, erano andate via le progenie. Sì. Quando aprite le porte, vedete solo i corpi carbonizzati dei popolani che sono rimasti in mezzo alle fiamme. Tutto bene! Un fuoco che ancora divampa, c'è l'olio di due giornate, probabilmente continuerà a bruciare. Non potremmo neanche uscire. È stato un fallimento. Tutto. Abbiamo anche buttato altra legna, altro olio. I popolani comunque. Padre Luciano, sentendo le tue parole, ti mette una mano sulla spalla e dice: abbiamo fatto tutto quello che era il nostro potere, fratello. Pensa a ciò che abbiamo salvato e non ciò che abbiamo perso. In tutto questo, parole molto, molto sagge, padre Lucian, però non mi rincuorano in questo momento. Capisco il tuo dolore, ma ora riposate. Pazzo. Per sé. Domani sarà una lunga giornata di dolore e di lutto. Se non peggio. È diventato un 17 sul braccio. Vabbè, il tipo che faceva le bare quindi è ancora vivo. Sì. Anche il barista è vivo. Come si chiamava? Milivoji. Milivoji è il becchino. Il barista è quello che. Sì, ha i tendini tagliati. Io lo voglio uccidere. Farlo lavorare prima per fare queste 17 bare. È vero, va punito quello lì, perché li ha invitati a entrare. Esatto. Perché sì, lo obblighiamo a fare. Si è fatto mesmerizzare dal vampiro. Per quello che abbiamo combinato. Poi dopo sì, lo prendiamo di brutto. C'erano più delle urne qua che delle bare. come da tradizione qui li cremiamo, vero? Cosa vuoi che lavori? Che l'ho pestato a sangue, gli ho tagliato i tendini. Non credo. Eric van der Voort, il barista. Allora lo puliamo e basta. Io vado da mini voglio. Dai che guadagniamo sta settimana. Non mi devi ringraziare. Non voglio che mi si dica grazie. Zio. Molto bene. Poi vado invece dal tizio delle bare. Ma in realtà dobbiamo parlare. Almeno lo trascino da qualche angolo della cosa. Lui te lo fa fare. Il problema è che le progenie di vampiri che sono comunque ancora in giro sono andate via. È una crisi mistica. Il fatto è che non saranno sicuramente rientrate in quella casa, immagino. Saranno sanno che noi sappiamo che sono lì e che stiamo cercando di ucciderle. Questo è vero. Sarebbe un po' stupido che rientrino lì. C'è un'unica soluzione. bruciare quella casa ed essere sicuri che non stiano lì. No. Bruciare la città. Se c'è un'epidemia, come la contieni? Bruci tutto. Sì. Zona di quarantena. No, no, ha ragione. No, ti dovete pensare così in sta campagna, se no non ci si esce. Non ho capito. Vabbè, abbiamo abbastanza olio. Cazzo di città medievale, brucia appena gli dà un po' di... Oggi sono io, posso ben vedere le cose. Va bene. Quindi che cosa fate? Data a letto. Comunque non voglio ucciderlo il barista, gli voglio solo tagliare la lingua. Aspetta. Così non può più invitare i vampiri. Intanto... So che non c'è, però l'istinto ovviamente di dire a Sala di rimettere le reliquie al loro posto. Io rompo il collo. Non lo sappiamo che... Noi sappiamo che sono nel suo zaino. Non sappiamo che una parte non ci sia o meno. Però diciamo, intanto no, rimettiamo sì, le reliquie. Poi lui si terrà quel pezzo che ha rubato, però intanto... Non lo farà. Lo chiediamo a Sala cosa vuol fare quando... Chiamo. Adesso per fortuna non è rilevante. Quindi... Secondo me ci vuole un invito formale, se gli taglio la lingua più invitare i vampiri. Io mi metto ad aiutare i compagni a risistemare. È vero, se è morto l'invito vale ancora. Viva la ricerca! Ovviamente convinco i popolani a lasciare sbarrate il finestro almeno per un po', a lasciare tutto com'è, però gli do una mano a rimettere un po' cose, se sono ribaltati dei tavoli, i banchi. Beh sì, aiutiamo, poi riposiamo, poi ci pensiamo. Ok. Rincuorate un pochino, diciamo, la gente i popolani che rimaniamo, che ha visto i propri cari venire. Diciamo che passiamo la notte qui con loro per proteggerli ancora un po', tu con la lama, così vi proteggiamo noi. Ma io faccio un... tra l'altro con mi sembrate un po' tristi, lo saprà il barone. Io faccio un persuasion per generale, per dire che comunque il peggio è passato. E... beh, in realtà non è un persuasion, è la verità. Beh, no, che il peggio è passato, non è detto. Dice no. Potrebbe arrivare il peggio. Infatti fa persuasion e non deception. Hai ragione. Dice no. Riesci a rincuorare la gente, qualcuno... insomma, il peggio è passato, Giulio se la sta prendendo con un altro in questo momento. Finché l'altro è vivo, il peggio è passato. Qualcuno balbettando un po' riesce pure a dirti grazie. Altri ovviamente. Non c'è bisogno che tu mi ringrazi. E aggiunge anche lo stesso, grazie lo stesso, però. Altri invece sono ancora traumatizzati, qualcuno invece visibilmente alterato, perché appunto oltre ad aver visto la morte in faccia, ha visto la morte di qualche suo caro o di qualche suo amico. Alterato nel senso che è arrabbiato. O sconvolto, insomma, non, sicuramente non è tranquillo. Drogato. Un mix di emozioni. Perché non ridi? Dovresti ridere. Mettiamo un bel sorriso su questa faccia. No, la legge di questo posto, ragazzi. Sì, vabbè, ma non c'è nessuno in guardia qui che li guarda. Per ah, così non c'è nessuno che ci guarda. Chi se ne frega delle leggi? Passiamo col rosso. Non c'è la telecamera. Chi se ne frega? Beh, tecnicamente sì, funziona così. Almeno qui da noi. Va bene. Detto questo, io visto che vogliono fare sì che le bici, cioè, possono andare a controllare il clamoroso. Ma lo fanno già. Non vedo che cosa cambia. No, capito, cambia che se la investi è colpa tua. È esattamente lo stesso concetto, cioè tipo, vabbè, allora c'è anche si può passare col rosso, intanto se lo gente lo fa. Basta che nessuno ti veda. Cioè, più che altro vogliono mettere il casco obbligatorio per tutte le bici, voglio vedere quelli che prendono mobile che si tirano con un casco e senza. Va bene, detto ciò. Però grazie alle tue parole comunque la maggior parte della gente si rincuora e soprattutto capisce l'importanza della vostra presenza e del vostro gesto, perché altrimenti sarebbero morti tutti in quella trappola mortale. Appunto, la trappola mortale dei vampiri, vabbè, non la vostra trappola. Piccolo appunto che è fondamentale: i popolani non sanno dell'esistenza delle reliquie, quindi non sanno che è colpa nostra il fatto che le portate Canta, fuori perché portate in effetti anche il tizio che ha invitato l'abbiamo portato noi dentro. Vero, però i popolani non sanno della cosa delle reliquie. Quindi non sanno che se noi avessimo lasciato le reliquie al loro posto non sarebbe successo niente. Ecco, sì, è vero. E soprattutto giocherebbe averli invitati. Giochiamocela così, è vero, la verità. Una volta che magari i vampiri prendevano qualcuno in loro balia, potevano costringere qualcun altro a invitarli dentro. Questo sicuramente non dovrebbe essere il proprietario di casa. Questo lo sappiamo noi. Non è specificato. Però potrebbero. Però le avrebbero, cioè, in teoria avrebbero invitato e c'erano dentro le ossa e comunque lo entravano. Sarebbe andata uguale. Loro? No, infatti lui non è entrato quando l'ha invitato. Perché sarebbe andata uguale. Può essere se mettendoli in balia gli dicevano uscite, uscite, se le mangiavano. Quello sì. Quello potenzialmente poteva accadere. Va bene, quindi. Oppure noi andavamo via e invece come andata l'acqua di fuoco. Oppure noi andavamo via e nessuno sapeva che Sala aveva rubato un osso. Non è andato ottimamente, ma non è andata neanche tragicamente, diciamo così. Beh, vabbè. Ma questo. I due tesi sono ancora vivi, potevano far molto meglio. Cioè, poteva. Non voglio sapere cosa dice il meglio. Thanos ha fatto molto peggio. Esatto. Va bene. E questo quindi lo spiegherete il giorno dopo. Cos'è che spiegherete? Dovere. Vi svegliate, per fortuna. Il gallo canta, chicchiricchi. E ho da pestare di nuovo quello delle bare. Sì. Ok. Quindi a quale altra meno malfunzione gli hai inflitto? Scusa, per, giusto per tenere il conto. Però ora lo picchio. Ah, ok. La mattina sul presto. Beh, giusto, ci vuole un capro espiatorio. È colpa di questo. Colpa sua! È solo colpa sua. Ovviamente tutta la. Insomma, tipo l'incontro, tutta la lotta che c'è stata ha attirato una folta schiera di curiosi, perché nella notte insomma si sentivano le urla e le grida, ma nessuno ovviamente aveva il coraggio di uscire di casa a controllare. È tipo l'allenamento mattutino, no? Uno si alza, fa qualche. Chi fa l'allenamento mattutino? Io. Col perché? Tizio. Uno no, magari si alza, va a correre oppure tira dei pugni al sacco. Il mio sacco è qua. No, è qui alla porta. Apri la porta. Cioè, guarda che c'è. Cioè, peggio di Volder Virgo e Vora, cioè. Cosa? Così, mi sei un vampiro o lo invitavi a entrare così? No, non c'è la portina alla giaccarci come. Ah, non è le liquidi là in camera. Ehi. L'altro nano. Sì, L'altro nano giusto. Allora. Ah, non delle montagne. Non ci siamo tre nani domani. E soprattutto adesso ci sono due di voi. Cremona è la squadra del mio cuore. Certo, anche Vinter, guarda, ci sei Critz. Infatti ha soccato. Voi due siete alla locanda con Irina e il fratello. Perché Cremona? Perché non c'eravate e quindi siete stati mandati alla locanda. E quindi vi arriva voce. Avremmo fatto un lanetto dalla collina. Vi arriva voce che c'è stata una. Una battaglia. Un breve riassuntissimo? L'ultima sessione non c'era. No, tu non c'eri l'ultima sessione, è vero. No. Ah, niente. Il motivo per cui ha ucciso tutti. Siete andati. Scordati. Terzo riassunto. Voi due siete andati alla locanda con Irina e con Jonovic. Le persone sbagliate. Se è vero, voi non sapete nulla, giochiamolo. No, aspetta. No, scusa. E vi arriva voce che c'è stata una colluttazione. È più divertente così. Sì, beh, è giusto. Ne la facciamo in gioco. Okay. La prossima io ero nella locanda con chi? Voi due chi? Con lui, Irina. La sera prima, esatto, i due fratelli e voi due per proteggerli. Io ero rimasto che eravamo nella cittadina di. Siamo ancora lì. Quindi io sono in una locanda. Ora tutti ci conoscono. Ho sentito che c'è stata una colluttazione. Da mattina alla locanda dicono che questa notte c'è stato un grosso scontro dalla chiesa con morti e feriti. E soprattutto morti Rick e morti. Rick e morti. 17 morti. Ah no, in realtà sì, è andata anche trovare la della tomba. 17 morti. Le ossa del le santo. Le ossa. Esatto. Quindi vi siete divisi e voi siete andati in questa locanda, avete conosciuto. Perché era l'unico altro luogo sicuro a volte. Che è tra l'altro una persona molto accogliente e molto simpatica. E che diciamo vi prende sulla simpatia e. Sì. Di farvi alloggiare lì per la notte. Let's scrivere tipo un litro e mezzo d'acqua. E qua c'è da lì davanti. Sì, c'è anche dell'acqua. Quello non è un litro e mezzo. Vabbè, intanto bevi questa. Perché domani io sapevo che devo andare a donare il sangue, quindi non può essere fluido. Ma è bottiglia. Devo bere tipo continuamente per fine tutta la sessione. Avresti anche avresti anche dovuto non allenarti, ma ti sei allenato. Sì, vabbè, quelli ormai lo sanno. E brevemente gli avventori della locanda, a parte ovviamente la famiglia che gestisce la locanda, che si chiama famiglia Martinkov, e sono in... Cosa c'è? Perché avete capito che sto cercando di trovare una presa per il culo un po' sì. Se ne avete tra quello e il non me ne prego un cazzo. Esattamente. Vuoi vedere le loro facce? No, no, voglio essere. Non vuole avere feedback. Non voglio avere aiuti, ce la faccio. Va bene, allora le farò vedere allora. Può aiutare. Soprattutto il capo famiglia. Dai. Siamo voglio qui. Ammazzare il bambino. Va bene. Quello questo più a destra, vero? Ah, sembra sì. Joffrey. Ok. E gli altri avventori alla locanda sono... La pelle mi sta antipatico. Due cacciatori la pelle di lupi. Mi sta antipatico. Che si chiamano Stoldar e... Cacciatori di lupi. Ci peccato sono. Che c'è il druido. È giusto appunto. E sono due scout. Che dice una cosa gli faccio che sai che fanno per chi volesse offrono il servizio di guide. Siamo cacciatori di anime, non di anime, di guide. Siamo ancora a livello 3, è vero? 4. Siamo anche di livello. Siamo a livello 4. Ah, guarda che passo che non mi dice. È fondamentale questo passo. Chi era alla chiesa sale di livello. Io ero alla chiesa. No. Comunque sali di livello. E nella locanda. Anche tu. Io sono salito prima di te. Mi dispiace. Allora poi. Comunque è il quarto livello più scrauso, quindi cosa? Cambierà poco per te forse. No, per tutti. Avete l'aumento di caratteristiche. Sì, esatto. E poi a parte quello il druido prende evoca animali. Prende il trentesimo di terzo livello. Ok. Ah, Esatto. Quelli di terzo livello prendono il quinto. Peccato. Incremento di punteggio abilità. Miglioramento della forma selvatica, no, di terzo livello li prendi al prossimo. Va bene, appurato questo, ti dicevo, gli avventori alla locanda, il cacciatore di lupi, un mezzelfo che fa, diciamo, da intrattenitore, lui dice di essere un bardo, però non è tanto intonato quanto più è un cantastorie, ecco, uno che racconta di favole molto molto particolari, dettagliate, avvincenti, di... mostri che vengono sconfitti da prodi cavalieri e di come il bene vince sempre sul male. E gli altri due ci sono altri due avventori notabili. Cioè, prossimo lo facciamo. Grazie. Sono due fratelli, Nicolai e Carlo, che sono due ubriaconi che un po' spacconi fanno casino. E vi dicono che sono i figli della signora Wachter. Wacca wacca. Ma è stato un piccolo cosa più importante. Il dado vita l'ha tirato, vero? Sì, allora. Catta, beh, che ti sto 8. Un 2. Quindi 6. Beh, io ho fatto 1. No, 5. Quindi 12. E poi c'è il bardo Rictavio che vi intrattiene con le sue storie. Rictavio. Ma chi devi scriversi? Non lo so. E, detto questo, vi giunge voce che c'è stata una colluttazione molto seria alla chiesa questa notte. E Coglione dice molto preoccupato e vi chiede di andare a controllare. Perché ho rubato 2 punti aggiunti. Ho rubato i miei 2 punti. Grazie, me l'hai fatto dire, grazie di minimo. Perché mi sono fatto 20, ho succhiato 2 punti a Giulio, li ho fatti miei. Vuoi sapere come ha fatto? Ha fatto signor Strahd! Signor Strahd! La mia costruzione è così bassa, con te Strahd, mi aiuti, la prego! Vuoi sapere come ha fatto i 20? Sì, lo so. Cioè, quindi di base è 18 comunque. No, aveva 16. Sì, ha preso 18 con i miei 2. No, avevo 17. 15 più 2 di razza. 19 grazie a Giulio che mi ha prestato. E 20 col punto di vista. Che ho preso resiliente con talenti da più in costituzione e diventa il mio tiro con la proficienza. In costituzione. Sei un druido. Sembra. La mia forza no, è vero. Per dire. La concentrazione come la mantengo? Col carisma? Allora, ormai non si conosce. Il suo personaggio standard è il druido C'è la costituzione maxata. Cioè tipo non va mai in corpo a corpo, però la costituzione è più alta di tutto il gruppo. Io vado sempre in corpo a corpo quando la costituzione lo richiede. Io vado di corpo quando bisogna. La costituzione lo richiede. Bene. Okay. Koglionovic vi esorta ad andare a controllare. Non è facile quello, però ogni nome che dici. No, è che ormai quello è Koglionovic per tutti. Sì, è vero. Però almeno com'era originariamente? Koglionovic. Quindi siamo lì. Io credo che la giusto storbi anche tu, ma per maschio. Vabbè. Cioè, ormai quello è il suo nome. Ismark. Cioè, quando noi nel gioco ci rivolgiamo a lui, diciamo davvero Koglionovic. Koglionovic. E lui al massimo può dire, ma non è il mio cognome, noi siamo stranieri. Non sono di qui. Sono di qui. Vabbè, non importa. Ah, perché Irina invece è Colliana, perché è femmina. Colliana. Ah, Colliana. Cogliona. No, Colliona, no. Colliola. Colliona. Coglione. Anche lui essendo maschio. È Coglione. A questo punto è Coglione. Perché è figlio di Coglione. È ancora più bello. Okay. Vabbè. Quindi comunque, voi puoi prendere altri punti da qualche parte, no? No, devo inventare le cose di classe. Perché io vendi costituzione? Non ricordo. Non ricordo. Quindi voi che cosa fate? A parte salire no, in giro. No, è che cercate di sgamarla invece. Ingenuamente pensavo fosse la classica borsa di Argi. Che io dice, sono sempre onesto, io non rubo. Al contrario. Ma le caratteristiche, posso di Argi. 20-20-20. 32. Quanto è adesso i punti ferita? Quanto vi serve? 2. 49. Il barbaro ne ha 52, il druido ne ha 49, ma io sto nelle retrovie, raga, ma cos'è? Tranquillo, poi anche quello della forma animale. Punto, ma io sto. Vabbè, io mi... quando c'è il combattimento spero di fare l'iniziativa più alta di lui, mi metto dietro di lui. No, tipo, mi divento un pesce. Il adesso tanto, puoi. Adesso puoi. Al quarto puoi prendere quelli con velocità no. di nuoto. Ah, forse sì, di nuoto sì. D'accordo. Tipo un cane che nuota, però. Ah no, aspetta! Vez, io avevo pensato al piano geniale per toglierci la maledizione. Aiuto. Qual è la piano geniale? Ah. Scaricarla tutta su. Su, è vero, cominciare a curare. È vero, me la sono presa io un po' della vostra. Bastardo. Ma quando... alla fine cura di qua, cura di là. Chi tu stai bene sa? Ormai. Mi manca. Cosa mi mancano? Un paio di punti. Quanto strà! Qualcuno si sta togliendo la maledizione. Tre. Basta che curi tre persone. Ma quindi se io dovessi curare lui mi prendo il suo bonus? No, no, no. Prendi delle botte, no? Prendi delle gran botte. No, quando tu curi, in pratica passi la tua roba, quindi riacquisti i tuoi negativi, i punti ferita che avevi perso. Devo scurarlo. Quindi. Beh, ma scusami, tanto lui mica. Io ho meno due che ho preso da lui, mi sa. Non hai preso me, hai preso perché voi due avete detto. Vaffanculo, ma fa culo, eravamo io e Salla. No, c'era. Io non c'ero. Ah, perché è vero, li ha presi da te. Da qualcuno li ho presi. Sì, no, da lui. Sta passata la sifilide. Vedi come aver rapporti non protetti. Ah, vabbè. Con un paladino poi. Ti sta. Vabbè, in pratica quando tu curi qualcuno, gliela trasmetti. Vabbè, ma io l'ho fatto per salvarlo, però. Beh, nessuno me lo dice. E l'altra volta era per sbaglio. Cioè, le avevo fatte due volte. Per sbaglio. Vabbè. No, perché ne ha due? Scusate. Mi ha dato almeno due diretto, mi aveva dato. Secondo me ha curato entrambi e ha fatto uno in no, uno. No. Secondo me sì. Sì, avevi curato tutte e due. Perché hai fatto quello. Esatto, avevi curato entrambi. Essere, però ho fatto una cura sulla e ho preso. No, sì. Perché hai usato quella che. Perché hai usato quella che cura tu. Hai tolto una testa loro e l'hai presi tu. Strono. No, perché io uno l'ho passato, mi sa, alla tizia. Uno l'hai passato a un tizio con cui avete chiacchierato. Che no, pure! Un ragazzino che hai invecchiato. No, esatto, col... Sì, c'era un ragazzino alla gomma, lui l'ha curato ed è invecchiato. E cioè, poverino. È vero, e gli hai messo il sacco in testa, che falso. Mi ricordo. Il paladino buono. Tolto il sacco, un bambino muore e l'ha infilato. Sì, è vero. Madonna. Il paladino buono. Vabbè, spesso l'altro giovane vorrei essere un buono in questa compagnia. Allora, io non l'ho fatto apposta. E quella di Laz era perché era terra ed ero l'unico che poteva salvarla in quel momento. No. Okay. No, sì. No. Ma eravamo messi male, si è curato le piante. Sì, sì, era così. No, ma io ho curato voi e li ho presi. Sì. Ah, non tu vedere? Hai curato me. No, è vero, lui ha curato noi due. Perché noi due eravamo messi male. Sì. Comunque abbiamo scoperto che in pratica sì, è come la sifili, tu l'attacchi. Quindi posso però al contrario, a caso. C'è l'altra gente alla gogna? No, però al contrario, della sifide, cioè tu la passi e in pratica te va via un po'. Quindi se curi abbastanza persone ti va via. Va bene. Questo è il mio druido dell'altra campagna. Quello per terra o quello in piedi? Guardate come si impegna delle campagne dove ci vuole. No, come beh, in realtà questo è sovrapponibile, basta che accogliamo un drago bianco medio piccolino. È riciclabile. Cioè, l'hai fatto tu il disegno? No, mia cugina. Ah. Figo però. Quindi, a me mancano 6 punti, quindi se uno di voi mi cura 6 volte... Io ho 2. Poi cura quelle altre volte che gli servono... Scusa, il tizio delle bare. Vatti a far curare da qualcuno NPC. Meglio ancora. Potete curarmi anche voi, poi lo trasmettete tutto. Io non li voglio. Ma poi li trasmetti al vecchio. Per questo non l'ho ancora ucciso. Ma ti sto chiedendo perché non l'ho ancora ucciso? Per questo motivo. Della gente che dice che alla locanda la chiesa stanotte c'è stata una grossa colluttazione. E voi sapete che noi siamo la chiesa. Chi è che lo dice della locanda questa cosa? Un avventore, un contadino che è arrivato lì ad avvisare chi stava alla locanda. Posso agire. Cioè, il classico vecchio che dovete. Va vicino di vino vicino al villico. Non si fa la spia. Lucido. Che colluttazione? Chi sono i protagonisti? Parlano di un grosso fuoco e una decina di morti. Un grosso fuoco e una decina di morti. Quasi una ventina. Mi sfugge comunque la colluttazione. Un grosso fuoco. Non si capisce la dinamica, però sembra che appunto molte persone abbiano perso la vita e altrettante siano state ferite. L'abbiano ritrovata. Sembra sia stato una specie di assalto. Ci ho provato. Gli avventori della chiesa. La chiesa? Sì, la chiesa di Santa. Santa. Sant'Andral. Io mi ricordo solo che le sue ossa, cazzo, me lo ricordo. Io mi ricordo solo che è la divinità del mattino, Sant'Andral. No. Rovero. No, non Sant'Andral. Però ha segnato contro l'Inter. No, è stuprato. Sì, per settimane. C'è vende gol da Sant'Andral veramente. Ormai è qua passato. È l'unico che bolla Sant'Andral. Il brand della banca spagnola. È passata? Ah, è passata. Che squadra non è con acqua fresca? Concentrati. Acqua fresca. Va bene. Cosa fai? Grande dia è passato. E altre notizie su questa colluttazione non ne hai? Non si capisce neanche la dinamica. Ci sono dei corpi bruciati e ci sono le porte della chiesa puntellate di spuncioni. Tu sai che delle progenie, quindi sì, immagini. Sì. E l'interno della chiesa è cosparso di cadaveri di pipistrelli. Le progenie. Loro sì. Sì, sì. Beh, certo. Loro sanno delle progenie. E ti ricordi quando Betty scappava? Sanno che c'erano le progenie, ma non sanno che hanno attaccato. No, c'ero lì. Era stato bellissimo. Giulio ha quasi ucciso Beth. Cioè, loro sanno che volevamo rimanere nella chiesa. Io c'ero quando Betty è scappato mezzo morto dal vampiro. Quindi so che c'è un vampiro. Però erano ancora con noi quando abbiamo cominciato a dire del piano. No, lui no. Quando non c'erano loro giocatori, ma i loro personaggi erano ancora con noi. No, lui no. Lui è FK da 2 anni. Lui è FK. Lui con la saliva nella locanda. Beh, lui c'era. Lui sì. Ma perché lui ha la storia con gli Ovovic. Sì. Lui è. Lui sta correndo con blocco non contro il muro. Lui è. lui era già con Cogliona alla locanda. Poi lui gli era giunto anche lui. Vabbè, lo salve magari gliela va. Perché quando il nostro personaggio è zombie va alla locanda. Cioè, da chi hai ricevuto queste informazioni? Villico. L'ha detto sul Carlino. E poi che non è? Villico. Potete andare a vedere, c'è una, insomma, adesso si è radunata una bella folla di sconosciuti, di curiosoni, e sono Vigili. Tutti lì che stanno guardando. Vado a vedere, per quando sorridi e esco. Seguo lui. Mettiti in follow. Arrivate che vedete questa scena. E voi vi svegliate e vi affacciate dalla, quindi vi riconoscete. Oh bella! In realtà la cosa migliore per loro sarebbe, in realtà la cosa migliore per loro sarebbe: chi sono quei tizi che hanno fatto questo casino? Cioè, sarebbe la cosa per salvarvi. Sono loro i responsabili. Contestate. Partiamo su marciante. Tutto intorno ci sono i villici, i contadini e i cittadini che guardano questa scena cercando di capire come. E in mezzo vedete il tizio del sangue. Avete notato l'altra volta? No. Quello grosso con un braccio tutto squamoso e con degli artigli. Insura. Perché è una guardia, però. Sì. È il capo delle guardie. Detto Izek. Uno sbirro di merda. Che grida ordini alle guardie ad estrema anca. Accabo. Scherziamo, noi vogliamo bene a tutte le forze dell'ordine. Due tizi di cominciare a raccogliere testimonianze, quindi interrogano, vanno a prendere la gente che c'era quella sera. I fedeli sono rimasti tutti lì con noi la notte o sono tornati a casa? Quindi io vedo Giulio, io vedo dopo il discorso rassicurante ci sono Satanas, Serbanistan e non mi ricordo chi. Garrosh. Ormai Garrosh li ha affacciato un ottimo soprannome sulla soglia della chiesa. Okay. No, mi hanno sgamato. Voi vi svegliate e vedete questa scena. Perché appunto indichi in su? Cioè, non è che la chiesa è. Capito, tu vi affacciate, uno si affaccia e non okay. Dalla porta. Cioè, vabbè. E quando fai quando ti affacci dalla porta invece cosa fai? Apri la porta. Finalmente si torna il tipo. No, ma io non mi sto affacciando alla porta. Va bene, allora. Io sto picchiando il vecchio. Barista, cosa è successo? Okay. Cosa avete combinato? Non capisco cos'è sia questo barista. È colpa di Satana. C'è mano guarda. Vabbè. Perché hai bruciato dei cittadini? Io sto picchiando un vecchio. Io sto picchiando un vecchio. Come stai picchiando un vecchio? Non sei affacciato dalla porta? No, io non sono affacciato dalla porta. Chi cazzo è lì sulla porta? Aspetta. Gli altri, loro due. Il mio intento sarebbe invece di chiudere la porta per ora prima di incontrare le guardie e chiedere al prete qual è la miglior cosa da fare. Ah, perché voi siete dietro le guardie? No, in teoria no. Cioè, no, loro sono andati sul posto, c'era già pieno di loro sono venuti lì. Quando apri, sono loro. Sono arrivati, c'era già pieno di gente di guardia. Però io direi dall'interno, per ora chiudiamo la porta prima di parlare e chiedere. Tra l'altro sono tornato a forza 16, quindi adesso il vecchio picchio meglio. Se non mi danno la costituzione non mi vedo io. Per meno di due punti in saggezza. Io chiederei al prete come meglio comportarsi con le guardie. Non so come sono qui le guardie. Perché sono 16. È già cappato. Padre Lucian cosa fa? Io entro in chiesa. Lucian è molto preoccupato perché lui sa che tra pochi giorni ci sarà il Festival del Sole Splendente. Era tre giorni. Non l'abbiamo fatto noi stanotte? Ah no. Esatto. E che insomma, cioè, ci abbiamo provato. Quindi sono degli innocenti che devono La sua preoccupazione. Non lo sai, tu devi chiederci le cose. Io sono entrato in chiesa. Abbiamo evitato che diventassero altri progetti, però. Esatto. Abbiamo fatto il servizio alla comunità. E io ti ho chiesto cosa è successo, Barista? Satana, so paura. Voglio capire se ci sono anche le guardie o meno. No, siamo entrati in chiesa e abbiamo chiuso la porta. Ah, a posto. E la città è in grave pericolo. Un grave pericolo incombe sulla città. Satana. Un altro. Cosa è successo? Le progenie sono ancora in circolazione, purtroppo. Non siamo riusciti a fermarle. Le abbiamo impedito di uccidere tutti, ma purtroppo sono fuggite. Sono troppo forti per noi. Ok, un secondo. Quando Vezza era scappato dal vampiro ed è tornato lì, io lì c'ero, ma non c'ero come giocatore. Cosa è successo? In pratica. Lì abbiamo cominciato a complottare su cosa fare per eliminare le progenie. Ma il vampiro che l'ha seguito? No, è rimasto dentro la casa, non posso uscire. E non l'avete più ribeccato quello. La sera. E gli avete attaccato, avete combattuto. Venite in disparte. E è morto. No. Hanno attaccato quattro progenie vampiriche. No, allora, abbiamo fatto sto piano per cui sostanzialmente doveva. Subito due danni dai popolani che poi ho ucciso. C'erano queste reliquie, no? Sì. Allora, le reliquie, se erano dentro la chiesa, il vampiro non poteva entrare. Esatto. Quindi non abbiamo tenuto le limiti fuori della chiesa. La persona l'idea in teoria era la persona rigenerava la sala perché le reliquie. Le reliquie sono fuori, i vampiri entrano, noi entriamo con le reliquie, quindi il vampiro viene scagliato fuori. E intanto, tipo, fuori avevamo fatto un cerchio. Ah, poi le tirate fuori, viene scagliato dentro. No, prima chiudere la porta. In teoria, fuori avevamo fatto una specie di anello di fuoco. Olio che prendeva. E loro in teoria arrivavano bloccate lì e noi li ammazzavamo. Questa era la nostra idea teorica. Teoricamente funzionava. Senza l'atto pratico, sono rimasti i cittadini. A lato pratico sono entrati 1 miliardo di pipistrelli dentro la chiesa. Uh-huh. E questo ha spaventato la gente. Sono arrivati i vampiri. Noi abbiamo appiccato il fuoco. I vampiri sono rimasti un po' nel fuoco, ma la cosa non li ha disturbati più di tanto. Però la gente, siccome aveva paura dei pipistrelli, è uscita buttandosi nel fuoco. No, è stata la gente ad appiccare il fuoco. Sì. Perché sì, è stato perché uno con la torcia che ha inciampato. Vabbè, allora ci hanno ammazzato da soli, che vabbè. Quindi hanno cominciato a uscire. La trappola l'ho fatta lui. Io a un certo punto ho preso un barile d'olio e l'ho buttato in mezzo. Gira i temibili pipistrelli si sono gettati delle fiamme e diciamo delle fauci delle progenie, così, a gratis. E a un certo punto abbiamo bloccato la porta per evitare che si ammazzassero tutti sostanzialmente. Siamo riusciti a evitare questo, però poi le progenie vampiriche non potevano entrare perché c'erano le reliquie. In realtà sono stati invitati a entrare, però non potevano più entrare e a un certo punto sono andati via. Però non siamo riusciti assolutamente a uccidere le avremmo fatto sino a 3 danni perché in teoria rigenerano, e quello che gli facevamo col fuoco era erano fortissimi. In verità i popolani continuavano a voler cose d'argento, in teoria giù li one shot. L'argento gli fa un cazzo. Come no? No. Perché? Perché no? No, resistenza alle armi non magiche. I popolani volevano continuare a uscire, quindi a un certo punto hanno buttato me e Vez sugli spuncioni, sui paletti della porta che hanno messo. Quindi stiamo facendo davvero il terzo riassunto. E ci hanno fatto un po' di danni. Mm. Allora io mi sono girato e ho ammazzato 2 popolani, loro hanno smesso finalmente di voler uscire. Okay. Abbiamo ucciso i pipistrelli e le progeni sono scappate. Quindi la scena che si vede davanti alla chiesa è di tanti corpi bruciati davanti alla porta. Mm. Tu vedi questa scena. Qualcuno bruciato, magari qualcuno qualche aperto. Corpo che invece non. Cioè, poi non so dove sono stati messi i 2 corpi che ho sventrato dentro la chiesa. E su questo vedremo di scoprirlo. Ti conviene pensarci. E okay. Poi ovviamente se loro non l'hanno voluto mettere. Non so in che modo riuscite a capirlo, ma chiaramente non tutti i corpi di quelli che sono usciti sono lì per terra. E ne hanno portati via. Beh, ora io dico, ragazzi, le guardie stanno interrogando. Comunque, tutto questo te l'ha detto Renzo, perché io sto picchiando un vecchio da un'altra parte. Tutti i corpi scappati dalla chiesa sono lì fuori. Quindi alcuni progenie. Cioè, magari se qualcuno sente qualche urlo. E soprattutto chi è che ha il coraggio di andare a dire qualcosa. No, gli ho tappato la bocca comunque, così non si sente. Perché stai picchiando un vecchio? Non è un vecchio a caso. Era quello delle bare. È quello delle mani. Quello che era in combutta con le progenie. Ok, va bene. Sta finendo di punirlo e torturare. Tra l'altro lui stesso che ha invitato ad entrare. Ho tagliato i teni dentro le cose. Che non so se lo sai, le progenie non possono entrare in un edificio se non invitati ad entrare. Tutti i vampiri. Sì, tutti. È una delle regole dei vampiri. Ok, va bene. Vabbè, dico, ci sono le guardie fuori che stanno facendo gli interrogatori. Sì. Stanno interrogando. Forse sarebbe il caso, visto comunque che da quanto mi avete raccontato non siete colpevoli o comunque non volontariamente non avete la coscienza sporca, esatto. Potete dare una mano alle guardie in modo tale che anche loro magari vengano avvisate del fatto che ci sono progenie vampiri. Ok, io mi avvicino, vabbè, non me ne frega un cazzo, niente, no, scorreggiato, va bene, in real. Wes, tu avevi chiesto a Lucian arriva Giulio, arriva una cosa, arriva. Non avvisare il mio. No! Non avvisare. Mi avevi chiesto come consigliava di comportarsi in questa situazione. Una cosa del genere. Sì, ma abbiamo ignorato più o meno tutto quello che ci diceva finora. Comunque, perché dovremmo iniziare adesso? Hai ragione. Che cosa era proporre? Appunto, la sua preoccupazione originale, che se vi ricordate era quella che lo. Questo è il tizio che è sempre con noi. Il padre Luciano. Perché. E se vi ricordate, appunto, lui era titubante ad andare a chiedere a Milivoji perché avesse rubato le spoglie di Sant'Andral. perché non voleva creare casini nei giorni precedenti al festival indetto dal barone, perché appunto questo non abbiamo creato casini, non mi pare. Tu hai visto casini? Io questo poteva indispettirlo e comunque è colpa di quello che faceva il bar. Essendo certo. Lui un pazzo che amministra la giustizia in maniera assolutamente arbitraria. Due popolari e quindi le si è dispettito. Con lui, vero? Perché sì. Non so chi sia stato. No, non è indispettito, però è più sono mai stati vampiri. Perché ovviamente sa che essendo il barone un pazzo bisogna andarci piano. Non lui, dico che stavano arrivando le guardie, quindi probabilmente il barone si è indispettito. No. Vabbè, le guardie fanno il loro lavoro. No. Poi adesso riporterà... appunto ora sì. No, farà quello che dico è questo, che cioè l'unico modo per sventare la minaccia delle progenie è comunque avere un collegamento con la guardia cittadina, perché se no come noi siamo questo sicuramente, certo dobbiamo collaborare tutti contro la minaccia per vincere il male. Il punto che è la lucidità di chi ha il potere non è sempre puoi andare in bagno. No, volevo fare una domanda. Cioè, c'è anche la bambina, vero, con loro? La bambina è la locanda. La bambina è la zigana. Ma, scusa, ci sono venuti solo loro due anche con Kolionovic e con Kolion? Le altre due sono rimaste al sicuro alla locanda. Cioè, con Kolionovic andiamo a sentire, puoi stare... No, ha detto via esortato. Sì, dopo gli taglio no, tenni. Più che altro è quello che ha detto che la chiesa è l'unico luogo rimasto sicuro. Non Pavidovic. Dopo taglio i tendini anche con Kolionovic. Se volete chiamarlo, fate pure. No, ormai, i suoi tendini sono miei. Però per semplicità, vabbè. Comunque, vediamo come scappa. Parlando del diavolo, tu devi prendere per forza ogni campagna delle parti di corpo umano. Ma non li prendo veramente, sì. Li taglio e basta. Sentite squillare delle trombe. Fuori dalla chiesa. Fuori dalla chiesa. Inizio a picchiare il tizio con il ritmo della tromba. La musica di Rocky. E una voce stridula di un annunciatore dice: udite no, falla. No, la voce stridula non è sì. Perché non ha una tromba, la fa in edizione. Prostatevi tutti. Sta arrivando il barone Vargas Vallakovic. Chi di voi è curioso può guardare fuori dalla chiesa, sì. E vede queste due figure che salgo sul campanile e guardo. Ma quindi sta arrivando proprio il barone qua dalla chiesa. Davanti alla chiesa. Cioè, ma non è un po' il sindaco qua, tra virgolette, è il borgomastro, no? È il borgomastro che fa il suo lavoro al posto di Kolionovic, che sembra brutti sono. Vabbè, aspettiamo di vedere come reagisce con questi due. Arriva sul cavallo. La testa come Di Maio, lunga 20 cm. Questo? È questo qua a destra o a sinistra? Quello a destra. No, quelli sono cani. Questa è una tizia. La tizia è Kolionovic. Parte che si capisce che razza sia. Beh, si vede che è una sorta di senoni. Ha detto che sono umani. Sì, sono umani. O magari l'altro per sì, ma gli umani da queste parti sono fatti così. Sì, è vero. Vabbè, no, c'è anche quella anche la bambina è zingara, quindi in realtà. I cani sono veri. Sono dei mastini, sì. E sono con lui quei cani. I cani, i mastini lo accompagnano sempre. E insieme a lui c'è la baronessa. Comunque, non so se tu devi Lidia Petrovna. Tutto il villaggio, hanno una ventina di guardie. Solo? Sì. Ah, buono. Prima cosa che ho chiesto. Mi raccomando, non destate sospetti. Quanti guardie avete? È entrata nella porta. Scusa, quanti siete? Vedete che arriva a cavallo. Una delle guardie si mette rannicchiata per farlo scendere a modo di scalino. No, era per dirgli che c'è il cavallo di sono sul campanile io. Il suo tirapiedi, il tizio grosso con il braccio sporco. Strano si inchina a lui. I cavalli sono brutte persone. Appunto cominciano a discorrere e lui gli chiede di fare il rapporto. Il suora questo. Il suora, sì. Dopo che hanno parlato un qualche minuto, lui, il barone, risale a cavallo e arringando la folla dice: miei cari cittadini, nessuno di voi abbia paura, perché tutto quanto andrà benissimo. la nostra prode guardia cittadina tutto sotto controllo e ben presto i responsabili di questo orribile eccidio verranno giustiziati. Ma sono io. E... cioè, non al 100%. Fa un cenno a... ti giustiziano a metà. Fa un cenno a Izek e a sua volta Izek comincia a gridare ordini alle guardie. Quante sono le guardie lì fuori? Lì ne vedete 12 lì. Ah, e... quindi la città scoperta. Beh, sì, siamo mai tutti molti lì. E poi che girano le altre che vanno ad interrogare la gente. Ci barrichiamo dal campanile. Ah, quindi sono anche professori. Che intarro della carta. Carta troia. Cioè, almeno falle veramente brutte. Una delle guardie va a bussare alla porta della chiesa. Lui l'ha capito subito, però. E padre Luciano lo fa entrare. Lo fa entrare? Sì. Beh, porco mastro. Anche Izek che bussa senza palle. No, una delle guardie. Che Izek ha detto vai a fare questo, vai a fare quello. Nelle lì che sono all'interno, quindi sappiamo intanto che questo non è qualcosa di pericoloso. Immagino voi siate lì, quindi sentite quello che la guardia dice. Cioè, riesce tutti lì, lui, a parte lui. Sì, a parte Giulio che si sta. Non è solo sul campanile. Ah, è vero, lui è sul campanile. Perché mi ero affacciato al campanile per vedere il barone. Poi vabbè, scenderò, sì. La guardia arriva da padre Lucia. Metto il tizio nel batacchio la campana. Praticamente prende una pergamena e gli legge ad alta voce un avviso a comparire, un avviso di garanzia a comparire al municipio perché è indiziato come persona informata sui fatti e gli viene chiesto di portare insieme a lui tutti gli ospiti della sua chiesa. E noi oddio, parlerà dei fedeli, un'altra di quelle cose lì. Sì, parlerete. No, questo è invece contestra. Questo invece è un processo normalissimo. Dimmi i tuoi segreti. È già la seconda volta con te strade che non si comportano bene. A poca saggezza. Bene, padre Lucian torna da voi e dice: guarda che l'altra volta a me non ha tolto la costituzione, ma ha tolto la forza. E tu potevi mettere quei due punti dove volevi. Ah, beh, spurba un po' anche Vez. Un po' di forza. 18. Sei gallina. Allora, il padre Lucian torna da voi e vi dice: come temevo, qua invece di pensare a come risolvere questa situazione, sono solo interessati a trovare un colpevole. Ma è qui ancora il barone? Il barone è fuori dalla ma chiesa. Ma ce l'abbiamo il colpevole? Ma padre, proviamo a parlarci col barone. È lui. È per questo che ci hanno chiamato. Sì, ma prima di andare al loro teatrino al municipio. Anche perché non è detto che poi ne usciamo. Ok, allora vedrò che cosa posso fare. Cioè, veniamo con te, però andiamoci a parlare adesso. Mi piacerebbe l'istinto. Cioè, è una buona idea. E io andrò adesso a parlare col barone sperando che ascolti le mie parole. E tornerò a dirvi che cosa mi ha riferito. Scusa, se venissimo con te? Ah, va bene. Ma se noi ce ne andiamo da questo villaggio? Tanto l'ordine di comparire domani. Intanto no, è adesso. Hai detto domani? No, ho detto... Ah. Io vado con padre Lucian. Chi vuole... Io accompagno padre Lucian. Ok. Più che altro, per non sentire le grida del vecchio. No, è stato... L'ho tappato la bocca. Tappato. Io sto con lui, così cura il vecchio mentre lo tortura e lo può torturare di più. E così ti liberi della sifilide. E poi puoi liberare anche me, curando me, così va a te e poi cura il vecchio. Lui non ha sentito niente, quindi possiamo farlo. No, lui va bene, basta che sono dei bambini. Quelli che... Allora. No, vabbè. Assassino. Andate fuori con padre Lucian e... Il barone era lì che stava per tornare alla sua magione. E non sono molto diplomatico, nel senso che è il vecchio di merda! Lui gli fa qualche cenno e si fa per avvicinare. e Izek si frappone da buona guardia del corpo tra il barone e voi. E padre Lucian si prosta ai suoi piedi e chiede con un grosso sorriso in volto che non gli avevate mai visto prima: magnifico barone, chiediamo gentilmente udienza per discutere gioiosamente con lei del... Sorridi, Vez. Esatto, bravi. Dei fatti avvenuti questa notte, perché abbiamo importanti informazioni da riferire alla vostra signoria e alla guardia cittadina intera. E padre Lucian sembra metterci tutto se stesso per fare questa... Io dico, sì. non c'è tempo da perdere per mille sorrisi. Spantaggio. Scimmiottare le loro leggi effettivamente non è ancora modo per... per mille sorrisi. Oh, è sempre un'ottima cosa quando i colpevoli confessano potremmo dire che erano spontaneamente le prove dei fuochi d'artificio del cesto. E siete attesi alla mia magione, dove potremmo parlare come pirotecnici per la festa. dove potremmo parlare tranquillamente al riparo di orecchie indiscrete. Vedete che è una persona molto paranoica, ha con sé una pettorina di metallo e tiene sempre il barone questo, sì. E tiene sempre uno stocco al fianco. E Izek vi guarda storto. Io sono lì. Sì, vabbè, da quelli che ci sono. Vi guarda storto. No, ma guarda, io ne assorto meno. Qui ci ha dato, ci dà uno di abitudine. Sì. Sì. Ricambio lo sguardo storto e poi arrivo. Va bene, andiamo. È andata bene, non dice so. Lucian. Adesso dobbiamo fare in modo che la nostra versione siano il più possibile pulite e inattaccabili. Cosa facciamo consigli? La verità. Tanto verità è a nostro favore. Sì. Cosa consigli? Beh, è vero, no, ha ragione. Ci sono delle progenie. Aspetta, ci sono delle cose importanti. Sono delle progenie. Abbiamo provato a difendere la chiesa dalla parte. Parlate intanto che vado a pescare. No? Sì, no, voglio sapere intanto se lui... O mettiamo il fatto che Giubbia è sventrato della se gente. La questione delle ossa, secondo me, non vorrà padre Lucian che si sa. Ma non dobbiamo mica dirla per forza. No, vabbè, basta. A meno che il borgomastro non lo sappia già. E noi in quel caso possiamo dire no, le abbiamo sempre lasciate nella chiesa, non le abbiamo mai toccate. Noi gli possiamo semplicemente dire, siamo venuti a sapere che c'erano delle progenie, ci ha chiesto padre Lucian di difendere la chiesa, abbiamo difeso il più possibile. Sì, ha detto che noi eravamo lì alla fine, eravamo in visita alla chiesa. E lui ci ha detto, ho paura che ci attacchino. Le progenie hanno attaccato, noi... abbiamo provato a difenderci appiccando diciamo col fuoco. Se non abbiamo il capo espiatorio, tutta colpa delle progenie è sua. Lui possiamo. Cioè, non dire ciao, che è tutta colpa sua, ovviamente. Nel ciao, senso, ciao, ciao. Possiamo dirgli la cosa. La cosa delle ossa no, perché? In fondo è quello il vero colpevole di tutto. Non si sa. Sarebbe divertente se avessi tagliato la testa al tizio. Dipende, magari il borgomastro sa delle reliquie invece. No, è una roba che non c'è l'uscia. Aspetta, non te li sapeva solo le prese. Sì, che le hanno rubate. No, che esistessero. Però. Lo saprà il prete, chiediamo al prete. Cioè, no. Chiediamo al prete, però io direi di non parlarne di quello. Perché dici? Intanto, se è una roba che non si sa, è meglio. So, però magari. Cioè, chiediamolo a lui. Non c'è è giusto che decida padre Lucian. Sì, infatti, era quello che gli volevo chiedere. Però vedrai che ci dirà che è meglio non parlarne. Per non destare interesse nel barone, ragione, eccetera. Sì. Vabbè. Ma non è così. Cioè, alla fine sì, noi possiamo dire così. E più o meno siamo. E il vecchio? A questo punto come? Sì, il problema è il vecchio che cosa dirà. Nel senso che il vecchio potrebbe dire. Oh, il vecchio dirà quello che vogliamo. Lo uccidiamo. Il vecchio dirà che noi siamo andati in casa sua, eccetera, eccetera. Lo uccidiamo, diciamo che era uno dei fedeli presenti, è stato ucciso dalle progenie. Paladino. Io lo dico davvero questo, sì, però no, fidatevi, sì, che il vecchio dirà quello che vogliamo che dica. Non possiamo ucciderlo. Perché era qua però? Per invitare le progenie dentro alla chiesa. Cioè, abbiamo... L'hanno sentito tutti che li invitava dentro la chiesa. Sì, potremmo dire che era qui insieme a tutti gli altri fedeli. A un certo punto ha invitato le progenie ad entrare. Ma non sappiamo per quale motivo le progenie non sono entrate e bla bla bla. Abbiamo difeso la chiesa. Facciamo una domanda a Padre Lucia. Per quanto riguarda le reliquie, immagino che nessuno ne sia a conoscenza. Beh, ovviamente parlo in modo che i fedeli non sentano queste cose, cerchiamo di... Sì, siete dispersi. Punto è che anche se i fedeli non sono a conoscenza, lo sono a conoscenza chi non, assolutamente non dovrebbe esserlo, ovvero progenie. La progenie. Sappiamo già. No, però dico, il borgomastro ne è a conoscenza? No, eravamo gli unici a sapere. Ma io quindi ero l'unico, tu vuoi che non si sappia o ne possiamo parlare? È una decisione che porterà delle conseguenze. Perché se è si ovvio sappia... che se parliamo delle reliquie al borgomastro possiamo anche dire tutta la verità, cioè, e siamo scagionati. Però possiamo anche non parlarne alla fine delle reliquie. Il discorso è che una, appunto, si può anche parlare di della loro esistenza. E nel momento in cui questa diventerà di dominio pubblico, e ovviamente il rischio sarà quello di attirare molte allora infatti io eviterei di venire di molte persone malvagie che vorranno alla fine possessarsi. Possiamo dire tranquillamente che diciamo siamo passati a casa di questo perché secondo me possiamo passare gli orri, però il problema è cosa gli dirà il tizio lì. Allora, il vecchio mica viene con me. Può o non dire niente o dire quello che vogliamo. Lo faccia sparire. No, non ucciderlo, però basta tipo tenerlo legato. L'ordine di, come si dice, comparizione riguarda anche lui. Immagino. Lui dice tutti i presenti, ma non è che li hanno schedati. Aspetta, sì, sanno che c'è lui. Magari rientrano. No, perché è in un'altra stanza legato da lui. Sì, non l'hanno visto. Sai che lo buttano nei magazzini. Hanno interrogato anche tutta l'altra gente che era presente quella sera. Sanno che hanno detto Eric che è lì dentro. E quindi sapranno anche che ha invitato le progenie. Questo gioco è a nostro favore. Come si chiama? Eric Vecchio. Van der Waal. Perché avete preso il nome del mio personaggio? Tagliatevi la lingua, dite che ha perso la lingua e fai così. Può essere un caso di omonimia nel mondo. Tagliatevi le mani. Io non credo che sia molto in grado di scrivere. Però è scritto Henrik. No, okay. No, però effettivamente. Che brutta bestia. In qualche modo dobbiamo farlo sparire, che sia definitivamente o no. Sì. Cioè, secondo me possiamo anche ucciderlo e dire che sono state le progenie. Beh, raga, perché possiamo anche dire che noi l'abbiamo picchiato proprio perché lui aveva rubato le reliquie. Cioè, se diciamo la verità, Henry, cioè, nei cazzi. Noi gli abbiamo fatto solamente una cosa buona, recuperare le reliquie. Contestrato. No, è vero. È cioè, noi abbiamo picchiato il vecchio, magari ci ha aggiunto un po' di sì, personale. Però se non possiamo... Ci sono due problemi nella nostra missione. Però non è che l'abbiamo picchiato per crudeltà. Non parliamo. Lui non vuole che parliamo delle reliquie. No, ci sono tre problemi. Cioè, ci sono dice tre... che c'è una conseguenza, che poi bisognerà difenderle. Vabbè, allora, il punto è... Tanto le prete, già rubate, cioè, quindi... Vuoi che si parli queste reliquie o non vuoi? Ah, cioè, sono le tue cazzo di reliquie, decidi tu. Beh, noi spieghiamo, io spiego al prete che se parliamo delle reliquie riusciamo anche bisogna ottenere un sistema per cui queste andranno difese. Bene, allora, ne parlerà con il capo del villaggio. Io non ne parlerei delle reliquie, però i problemi sono tre. Uno, le reliquie, vabbè. Il secondo è, se noi raccontiamo tutta la roba, comunque ne parla il tizio... Cioè, noi siamo entrati nel casa del tizio, quindi siamo contro la legge, presumibilmente. Numero 3. Beh, se per le reliquie eravamo in un'indagine. Aspetta. Sì, ma non dobbiamo farla noi, ma la guardia cittadina. Quello è il caso del aspetta, prete, cioè, aspetta, no? Noi siamo stati assoldati. Aspetta. Sono cazzi tuoi. E numero 3, se noi sapevamo delle progenie, in teoria avremmo dovuto avvisare la guardia cittadina. Beh, ma ci siamo trovati lì tra capo e collo. Qualcuno aveva detto. Questi sono i problemi, secondo me. Per cui io farei gli ignorri e alla fine sarà la voce di uno contro noi. Cioè, potremmo semplicemente dire, eravamo una parte di noi, era il barone paranoico è capace che crede al vecchio, giustamente. Anche lui noi siamo arrivati in città. In teoria ha ospitato le progenie. e li ha invitati a entrare. Noi lui. Siamo arrivati in città, una quindi, parte di noi è andata in visita in chiesa, c'è stato l'attacco. Potrebbe forse convenire non dire nulla di che. Dobbiamo anche se parlare con... nulla di che, la nostra versione è abbastanza... Dobbiamo parlare anche con Milivoji. Ho una domanda, scusate, se invece il vecchio... Tanto giusto, loro... sfilate una lista di testimoni da chiamare, nel caso... Prima faccio un'altra domanda, se loro due non sono nell'ordine di comparizione. Ho capito bene. Sì, però chiaro, ci saranno gli imputati, ci sarà l'accusa e ci saranno i testimoni da chiamare, loro quindi due... pensate chi vi può aiutare. Nel senso che lui... Loro due non sono nell'ordine di comparizione, non hanno l'ordine di comparizione, loro due. No, loro due no. Non c'è. Allora non potete voi portarli il vecchio da qualche parte e dire che è scomparso? Io sono con Luciano adesso. Sì, però dico... Eh? Il vecchio ce l'ha. Ma noi che ne sappiamo dove è finito? È uscito dalla chiesa durante la notte. Tagliati. Beh, che non camminasse probabilmente qualcuno. Le progenie forse l'avranno portato via insieme ad altri cadaveri. Non sono tutti presenti i cadaveri. Non hanno visto la sera. Lui, il vecchio, era in mezzo alla chiesa, non è che... Ok. Quindi, molti testimoni vabbè, confermano la sua posso presenza. Posso dire una cosa? Sì. Possiamo dire tutta la storia così, okay. Omettendo il fatto che nessuno sa, a parte noi, che le reliquie... proteggono la chiesa. Dobbiamo dire, okay. Milivoji star zitto sulle okay. reliquie. Ma lui non sa che proteggono la chiesa. No, ma sa che, sì, che ha rubato ste reliquie. Ah, noi possiamo solo dire che lui, che il prete ci ha soldato per recuperare le reliquie. Sono delle reliquie, una reliquia del allora a questo chiesa. Punto diciamo che sì, esatto. Che eravamo nessuno voleva spiegare che proteggono sì. la chiesa. Sì, sì, sì, vabbè, esatto. Però comunque mettiamo, diciamo solo che proteggono esatto, la chiesa. Omettiamo il fatto vabbè, che vabbè, però non, comunque che proteggono la chiesa. Aspetta. Cosa che nessun altro sì. a parte noi e Lucian sa. Ok, però lo scatto mentale ovvio delle progenie vampiri che volevano rubare le reliquie, quindi è ovvio che abbiano qualche potere. No, noi il discorso è molto semplice. Noi stavamo cercando di recuperare queste reliquie. E delle progenie vampiri che ci hanno siamo attaccato. Siamo arrivati a casa di questo, abbiamo scoperto che a casa di questo c'erano delle progenie vampiriche. Siamo tornati indietro per proteggere la chiesa, sono arrivate e la cosa poi è andata così a atto pratico. Noi l'unica cosa che omettiamo è il fatto che le reliquie hanno un potere magico contro i vampiri. Neanche noi lo sappiamo. E tutto sommato è una cosa che l'unico che le sa forse è il tizio, è il vecchio. Il vecchio sicuramente lo sa. Il vecchio lo sa. Però, vabbè. Non lo so se lo sa, perché lui li ha comunque invitati a entrare. Anche se sapeva che c'erano le reliquie all'interno. Vabbè, non c'è. Possiamo parlarci con sto vecchio, cioè è in un'altra stanza. Ma più o meno. A padre Lucian andrebbe la maggior parte di lui è nell'altra via stanza. Di mezzo. Cioè parliamo che c'erano le reliquie da recuperare, ma nessuno di noi dirà che hanno questo potere. Diciamo solo che lei ci ha soldati per recuperare le reliquie, le abbiamo recuperate e nel contempo ci siamo accorti che questo tizio a casa aveva delle progenie. Siamo rimasti una notte in più per proteggerla, vista che la situazione ci sembrava strana. E sì, l'abbiamo scoperto poche ore dal tramonto, quindi siamo andati alla chiesa. E poco dopo, di fatto, per difendere i fedeli. No, eravamo ancora lì e c'è stato l'attacco. Sì, di sì. fatto eravamo lì da poche ore quando è arrivato l'attacco, dopo che abbiamo recuperato le reliquie. No, però che abbiamo scoperto, sì. Cioè io nel senso abbiamo scoperto che c'erano le progenie, poi siamo rimasti in chiesa qualche ora e hanno attaccato. Cioè diciamo lui diciamo, certo. era pentito, quindi voleva rimanere, abbiamo deciso che doveva rimanere comunque in chiesa per una vita di, diciamo, penitenza, quindi io sono andato a casa, che effettivamente è vero, sono andato a casa sua per recuperargli un po' di suoi averi, ho scoperto questa cosa, sono tornato indietro mezzo morto, e poi ci siamo difesi. Il fatto è la verità, è solo sì. mettere un particolare. Esatto. E ma lo direi io. Però aspetta, adesso direi di parlare con. Cioè parliamo col vecchio, però. Dobbiamo perlomeno capire cosa sa e cosa probabilmente vorrà dire. Cioè capire. Il vecchio figurati sa che le reliquie proteggono. Ma da chiamare il nostra. Diciamo, la nostra beh, testimonianza. Probabilmente l'ha sentito dire da noi a questo punto. Non lo so. Nostra testimonianza possono esserci Milivoji, il tizio e volendo il bambino che lascia. Il tizio? Intendi il vecchio? Sì. Vabbè, la nostra abbiamo padre Lucian. Il vecchio è tra gli imputati in teoria. Milivoji è. Noi non sappiamo come si configura l'accusa contro di chi. Noi adesso non abbiamo prima un'udienza privata qua o sì, parola. Però quando è arrivato l'ordine di comparizione era per Lucian e i presenti. Tutti chiesa. Quelli presenti nella sì, chiesa. Ma per interrogarli l'atto pratico, cioè l'accusa non si sa con che titolo chi è. No, non si sa che ancora il titolo dell'accusa, però potete sospettare che insomma sia per nel banco degli imputati. Quindi noi possiamo portarci, oltre a padre Lucian ovviamente, Milivoji. Vabbè, tutti presenti hanno visto che lui ha invitato i vampiri a entrare. Chi altro posto non ci, c'è neanche. L'unico problema è che qualcuno ha visto anche Giulio uccidere. Beh, no, è la loro prova contro la nostra. Quanti sono sopravvissuti quelli che hanno visto uccidere? Tanti, quelli della chiesa. 35. Vabbè, ho anche. Troppo. A parte tutto, questa cosa ha impedito che altri di loro finissero tutto tra loro. Questa settimana, in effetti, cosa. Quanto è grande? Dai, facciamo. Così. Si può sterminare tutto. Okay. Dai, intanto. Sarà brutto. Intanto, vediamo se ci fanno fare questa. Vabbè, io prima parlerei col vecchio. Cosa gli vuoi dire? No, chiedere più che altro. Cioè, oppure con metodi alternativi convincerlo a dire una versione nostra. Perché guardi lui i metodi alternativi? Perché è d'accordo con me. Nel senso, più che metodo, cioè, di dire la verità. Allora, alla fine basta. Sento, omettendo quel particolare, però. Solo che il problema è che lui rischia di essere. Io non so se sa che le reliquie hanno potere. No, ma il problema è che cosa dirà lui? Cioè, se lui dice la verità è nei casini, quindi potrebbe non dire la verità. E potrebbe anche dare una versione che è solo contro di noi. Scusate, qualcuno di voi ha ora di verità? Stavo guardando adesso, ma non so. Scusa, no. Lui potrebbe dare una versione che va contro di noi. È vero che è uno contro di noi. Non so. Però se lui dà una versione in cui dice che è colpa nostra e noi eravamo con le progenie, che ne so. Sì, capito? In realtà potrei anch'io dire che è colpa nostra. In realtà al netto di tutto noi potremmo starci inventando che ci sono queste progenie. Pensaci un attimo, vista anche tutti i tizi della chiesa, sì, cioè la gente è morta. Aspetta, hanno visto i pipistrelli, tutti hanno visto le progenie in faccia o meno. Abbiamo chiuso quasi subito la porta, cioè quasi subito sono morti 17 persone, scemo. Un paio di turni, vuol dire 10 tanto secondi, sono morti 17 persone su 60. Il barone di lì del pericolo delle progenie. Vogliamo andare subito dal barone, ci pensiamo dopo al vecchio. No, al vecchio non so che cosa gli vuoi dire. Del caso prendiamolo e. Prego, dire una cosa, voi che cazzo veniamo? Noi che cazzo ce ne frega se anche si spalge la voce che le righe proteggono la chiesa. Guarda, non è niente. Tanto, cioè, non è che. È quello che ha detto, lui perché ha detto tanto sarà, non ci sono più. Lui ha detto che è irrilevante. Per noi, ma sì, lui, ma rega, ma in generale, lui ha detto che però poi bisogna prendere le conseguenze, no, di difenderla. Ma se il barone lo scopre, magari io, ci mette un po' più di io guardia. Io rispondo, non è un problema mio. No, nell'ambito della cosa, come no? Nella... Non è incantesimi secondo livello? Per quanto mi riguarda, però. Beh, per vabbè, mi riguarda, puoi pregare tipo un'ora o due. È meglio non dirlo. Perché? Abbiamo due ore. Tanto vale fare altro. Perché essere a conoscenza di questa cosa ci rende abbastanza responsabili. Perché fermarsi il problema che è successo? Tortura. Ma non per lui, per dentro la cosa, in modo che non possa mentire. Cioè, si sa che le. Ma non a noi non mente, tranquillo, anche non mente al barone. Si sa che quelle reliquie erano così, cioè noi. Adesso hai imparato che con noi non mente. Però cioè, tu dici, se lo sapevi dall'inizio, andavi dal barone a dire, oh, c'è questa situazione qui. No, che proprio quello che abbiamo fatto noi in realtà ha generato casino. No, possiamo anche dire che noi abbiamo scoperto sul momento che le reliquie proteggevano la chiesa, quando abbiamo visto che lanciandole fuori sparavano dalla parte opposta del piede. Ci stiamo facendo un problema troppo grave. Gli abbiamo fatto un fuoco lì in mezzo, siamo riusciti a evitare che entrassero in quel modo lì. Molto semplice. Va bene, facciamo così. Va bene, la tua prima versione. Sì, però ragazzi, non per dire, cioè, siamo in un mondo di Dungeons and Dragons nel quale non è che se non lo dice il barone sei perseguibile per legge, per cioè. Anzi, noi cerchiamo di difendere la città. Lo direbbe il Conte Strada. Passiamo fuori dal giudizio del Conte Strada. Ah. O no? Da quello che sapete, è da meno 100 anni che non si vede strada da questa parte. Quindi segna 18 in Costituzione, sei troppo lontano dalla sua aula. Ci hanno anche detto di non parlare di lui, sa. Loro sì. Non. Sì, infatti, una delle prime parole è stata il diavolo. Ah, vabbè, Vez, va bene la tua versione omettendo il potere delle reliquie. Io non ne parlerei, cioè non sì. Beh, ok, andiamo avanti. Andiamo. Quindi tu non sei, non vi andate a. Ci sta accompagnando due cose, Luciano. Anzi, stiamo andando solo io e Vez in realtà al momento. Ah, io ci sono. Anche tu? Eh. È lui che è rimasto. Con lui, io con lui. Ah, ma vuoi dire qualcosa al vecchio? Diciamo. No, però secondo so te ha senso. Non so cosa. Ehi, vecchio, ma. Rifletti la memoria. Dice la verità, ci cosa sapevi tu delle reliquie? Posso? Esattamente. Lui sta facendo delle domande al vecchio. Cosa ha risposto? Valevano un sacco di soldi. Posto. Sai che c'è un'udienza davanti al barone? Sì. Tu sai cosa dovrei dire, vero? Sì. Cosa dovrei dire? Sentiamo. La verità. Esatto, e qual è la verità? È tutta colpa mia. Bravo, bravo, bravo. Hai imparato. Bravo. Sono fiero di te. Rick. Vedrai che con un bel sorriso sopravviverai anche a questa. Pensa che saresti dovuto morire ieri sera, invece sei ancora vivo. Che culo. Vai, vieni a parlare questo barone. C'ho un barone a testa. Anzi, non è vero, sarei stato più fortunato se fossi morto. Andate dal barone. Arrivate alla quella casa lì, che è la maggiore. Burgmaster. Casa a tre piani e, con una grande entrata a est. A est? Sì, questa volta è nord. Cosa, giusto? Sono interrato. C'è una cazzo di bussola qua? Sì, sì, no, è un lato interrato. Ma da dove si sale, si scende? Bisogna fare primo piano. Sono le scale. Ah, pensavo di rispondersi, no, basta fare un buco per terra. No, non mi hai capito. È qui. Ci sono le scale. Si scende, si scende. No, si sale, si sale. È quello che è, dai. Si sale e si sale. Dipende dai punti di vista. Ma si sale cosa? Sono due scale e una va giù e una va su. E non ci sono i serpenti, quindi non si scende. Questo è piano a metà, cioè piano terra, primo piano. Perché questo tecnicamente è tipo... Perché nessuno mi caga? Cioè, però da dove si cioè da dove si entra, dove si esce questo piano? Ah, qua c'è, scusate, cazzo vuol dire questa scala, scala. Vedi che mi dai ragione? Non c'è un punto d'accesso a quel piano. Ma dove si arriva a questo piano? Ma tanto noi non sappiamo che c'è questo piano. Ah, sono curioso. Guadagnare. Vedi che anche tu sei spiazzato da ciò. Accesso, primo piano. Poi riposo. Sì. Riposo. The minimum number of hit points remaining from the rolling of the dall'arrivo è uguale al doppio della tua costituzione, del tuo. Vabbè, ci arriveremo. Era solo curiosità. Sì. Se c'è una scala che va giù. No, va su, magari arriva a questo piano. No, va giù. Andiamo a vedere. Vabbè, non è importante, non è il momento. Non si, non no, arriva. C'è una scala che va su qua e una scala che va su qua. No, sì, questa arriva qua. Che e questa è? Arriva qua. E qua c'è un'altra scala. No, è la stessa. Fai un pianerottolo. No. Questa è una rampa. Pianerottolo, seconda rampa, arrivi al piano. Voi non sapete, ma c'è una bottola nell'area N3O. Vabbè, ci ha già spoilerato. No, vabbè, qua si vede la bottola. Ah, ok. È che è qua non si vede. Perché ma... ce l'hai detto? Comunque, tutto questo c'è inutile. Vabbè, siamo entriamo, io vado alla bottola. Almeno vi siete tolti sta curiosità e smettete di rompere i coglioni. Però come arrivi alla bottola? Dai, parliamo con sto barone. Sì, arrivato alla casa del barone. Solo io stanno. Sì. All'ingresso ci sono quattro gavardi e vi dicono dovete lasciare qui tutte le vostre armi. Ah, siete tutti... Chi siete? No, io sono con lui. Ma questa è un'udienza privata. Lui non sa se lo fanno entrare. Cioè, nel senso, non hai l'ordine di comparizione. Però penso che tu possa entrare. Io accompagno Lucien perché mi ho paura che nell'interrogatorio sia... Io farei una cosa, lascerei tutte le armi. Potete, tranquillamente. Puoi lasciarle anche a me. È truente. No, io non mi fido. Noi siamo. Io non sono lì. Verrò dopo all'udienza tutti, ma lì in quella privata siete tu. Non vieni? No. Ah, allora sì, ti lascio la mia roba. Poi quando io dovrò lasciare le armi farò. Vorresti togliere un vecchio bastone per la vecchiaia. E le sue due spade, la sua balestra. No, la balestra posso lasciare, ma le due spade. Ma lasciale a sala, non ti fidi. Le vende in due ore quando usciamo da lì. Uso le spade, okay. Tipo. Ma conosco comunque da più tempo Giulio. Yeah. Quindi chi va all'udienza privata? Ah, io ci sono. Loro tre? Io. Io le armi, però le ho portate con me. Chiedo. Ci possiamo. Vabbè, se ci vediamo, cazzo, dai, sì, lascio le guardie. Anch'io le armi con me. Cioè, l'accetto. Beh, io le lascerò a loro. Ma ti guardano e dicono. Lì davanti. Comunque, ci accompagnate lì davanti. No, sono col vecchio in chiesa. In realtà, se rimango in chiesa. Vabbè, fate quello che vi pare. basta che non entrate con le armi. Vabbè, le lascio. Vabbè, tanto per forza di cose lasciano lì per se loro, se hanno già seguito loro. Ok, prego. E poi lasciare la sala, magari non. Ma no, scusa, posso tenerlo però. Te lo ispezioneranno perché non abbia una cosa. Perché uno può uccidere anche con uno scudo. Uno può uccidere anche a colpi di zaino, uno però. Sì, diciamo, vabbè, ma lo scudo è comunque un'arma, più o meno. Cioè, anzi, è un'arma. Ci siamo, dai, ci siamo. Il pugno. Capito, il pugno ti ha passato. Entrate. Tu non dovresti saperlo. C'è questa hall, questo ingresso. Bunkerini. Diciamo che in questo ingresso è una cosa permanente. Vedete in un angolo che ci sono una mucchia di ramoscelli e di cordicine. Come per insomma, le messi lì per fare da, tra virgolette, magazzino a quando poi verranno usati. Immaginate, per, sono quelli che si usano per accendere i falò. Tanta esperienza di falò. E c'è una scala che va verso l'alto, avete lì la mappa. Potevamo venire a prendere qui per accendere meglio quello che abbiamo fatto. E alle pareti ci sono diversi ritratti del barone, della sua famiglia e dei loro antenati. E i mastini sono lì nella stanza. I mastini sono insieme, sempre insieme al barone. Tutte che queste cose lì. Qui sono i rametti che dici? No. Per tutto il cazzo c'è questa mappa. No, perché vuol dire che sarebbero tantissimi. No, non so, sono in un angolo accatastato. E notate che tutti i personaggi raffigurati nei dipinti sono molto somiglianti tra di loro. E poi c'è un attaccapanni con un sacco di mantelli, vestiti, eccetera. Ah, viene un cameriere, un inserviente che vi accoglie, vi prende i vostri cappotti, i mantelli, quello che è. Armatura pesante. Armatura. Dice, prego signori, il barone vi attende nella libreria e la ragazza vi farà strada. Viene una cameriera. Cosa detto? La ragazza vi farà strada. Ah, ho capito strada. Va via camminando molto velocemente. Venite accompagnati nella libreria, che è L. Non so la lettera. Vabbè, la libreria sarà dove sono i libri. Ah, Giulia. Questa qua. Sì. Quindi al piano di sopra? Sì, al piano di sopra. Sono un sacco di cose. Libreria. Voi non lo sapete, ma. Buonasera! E quando entrate è mattina, sera. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Che cazzo è finita? È libreria. Alle pareti ci sono le scaffalature dal pavimento fino al soffitto. Stai soffrendo. Sto soffrendo perché stai dicendo che in una libreria ci sono dei libri. No, ci sono delle librerie molto grandi. Quanto legno è stato usato? Su ogni muro di questa stanza senza finestre. Senti gli alberi. È troppo descrittivo sta cosa. Mi viene immagino come la libreria della bestia. C'è una grande scrivania e sopra di questa una lampada d'olio al centro della stanza. E c'è una sedia imbottita che ha nel cuscino dietro ha il simbolo del di un orso che ruggisce. Buongiorno. Dietro la sedia che sta leggendo un libro c'è questo uomo con la sua piastra di armatura, uno stocco, una tunica di seta. Ah, le armi le state vedendo quindi lui. In casa sua. Sì, lui tiene sempre la sua arma con sé. Vi avevo detto che è molto paranoico. Non lo lasciare. Buongiorno barone. Buongiorno. Riposano ai suoi piedi una coppia di mastini. Buongiorno. Buongiorno. Rispondono i cani, ma lui no. Barone, finalmente. In realtà è il barone che sta descrivendo. Vedete alle mie spalle. Cioè, quale gioia! Ci dà neanche il benvenuto oggi. Eh? Ci dà neanche il benvenuto. Sì, dice buongiorno. Ricordatevi che dovete sorridere. È un piacere avervi qua in questa ridente giornata. Non sto sorridendo. Di questo ridente paese. In questa bellissima città, ma non altrettanto. Quale gioia incontrarla, barone. Un onore davvero da giornata felice. Purtroppo però rischia di essere... Il nostro sorriso rischia di essere spazzato via da un grande pericolo per tutta la città e la comunità di Vallachi. Ti ascolto, signor... Vardistran. Vardistran, è un piacere. Io sono il barone Vargas Vallakovic. La sua fama la precede, barone. Oh, bene, sono contento. E dimmi, che cosa dice la mia fama di me? Dice... ma che cazzo gli vai a dire? Che è un pazzo! Io sorrido ancora di più. Tu mi piaci. Sentiamo! Ti faccio trombare mia sorella. La fama dice che lei è molto rispettato da queste parti. Ah, poi ero forte. Lei è molto... Inoltre tutti abbiamo visto l'impegno che mette nell'organizzare le attività cittadine. Sì, è fondamentale. Per secoli abbiamo bandito le forze del male con il potere della gioia e della contentezza. Ecco, magari vampiri, però col sorriso non... Mi immagino, cioè Vezco fa... Ma Vez veramente... Vedo l'impegno in ogni singolo fratto di questa città. Io spero che il suo personaggio non stia usando questo tono palesemente sarcastico. No, io sono... Io vedo tutte queste cose, certo. Non ho detto cose false. No, però mi piace il tono. Lo vedo proprio. Ho solo selezionato quelle... Accuratamente le parole. Non so se però il sorriso possa bastare in questo caso. Ah, dubiti forse della mia decisione? No, assolutamente no. Questa legge che al tuo personaggio non piace, ma a te sì, ricordiamolo. Da ricordare il bambino. Assolutamente no, ma è proprio per preservare il sorriso della gioiosa comunità di Vallachi che siamo qui a parlare di questo pericolo. Ieri la ridente chiesa di Sant'Andral e tutti i suoi gioiosi fedeli sono stati attaccati da delle assolutamente non gioiose progenie vampiriche. Le mie lame sono gioiose. Gli scarti del diavolo, il male, l'antisorriso, l'oscurità. L'antisorriso, Dio mio. Lui si scurisce in volto e... Guardie! Non ride! Chiamano proprio gioiosa 1 e gioiosa 2. Abbiamo resistito a dondolare. Abbiamo resistito agli attacchi ieri sera, ma purtroppo siamo con grande gioia. Ma non siamo, purtroppo non tutti ce l'hanno fatta. Ma sono morti col sorriso. Ma il problema è che anche se siamo riusciti a respingerli, non siamo riusciti a debellarli. E questo punto solo lo sforzo di tutta la guardia cittadina e la comunità insieme, uniti sotto un unico sorriso, potrà garantirci contento, dai. È palese che sta scimmiottando. Senza farlo tiro su persuasione, persuasione adesso lo tiro, potrà garantirci di salvaguardare con vantaggio, perché noi stiamo sorridendo alle tue parole. Fai il bell'uno, così fai la fine. Vado? I Ramsi con i bastini. No, dimmi tu, se no. Va bene. Sei persuaso? uno, ti prego, uno. Tre, sì. Tre, sì. Otto. Hai detto le parole... Sono i colmi di falsità. No, lo hanno... si è fermato ad ascoltarle praticamente quando gli hai detto che appunto ci sono delle progenie vampiriche, okay, in città. Si è fermato? No, sta dondolando. Barone, buongiorno. Buongiorno, barone. Barone, ciao, buongiorno. Lo sapevo. Cosa ti lei? Sono tutti contro di me, vogliono uccidermi. Pugnali ovunque, nell'oscurità. Ma perché è ridicolo? Esattamente quello che ho detto. Peccato. Tamburi negli abissi. Peccato non ci sia io. Avrei detto, questo caso non so se ridere di quello che sta sono facendo. Sono tutti lui, contro di lei. La legge, questa però la città deve bruciare. Devono tutti bruciare. Denethor, stai calmo. Barone, la prego. Un fuoco purificatore. Che senso? Cos'è questo? È Bandemore. Dobbiamo anticipare. Tu sei in chiesa, ma senti. Io sono in chiesa e a un certo punto il personaggio di Lazo vede che faccio così. Per dobbiamo anticipare il festival del sole splendente. Abbiamo bisogno della sua santa gioia per proteggere la città. Sento un disturbo nella forza. Buongiorno Maroni. Mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Buongiornissimo. Tu chi sei? Io sono Patk. Il druido Patk. Purtroppo seguo. Mi occupo anche di queste. Purtroppo sono queste creature che rovinano gli equilibri della natura in negativo. E rovinano temo gli equilibri che... della natura in negativo. Rovinare in positivo. Quelli di quello che tu chiami sono dei più volanti, quindi io... non sei espresso bene in negativo. Rovinano positivo. fai uno. Sì. Temo che il festival del sole splendente, per quanto sia fondamentale per questa merda, no, andiamo alla gogna. Non basti perché le progenie non si fermeranno davanti. Aspetta. Barone. Questo è veramente l'NPG che reagisce così, che sclera del tutto. Quello che il mio peloso amico voleva dire. Cosa? Non ho detto questa cosa delle ridicole superstizioni delle spiccioli. Voleva dire. Lui. Siamo purtroppo estremamente in avanti. Dico che serviranno anche ed eravamo molto ansiosi di conoscere in questo festival del sole splendente. Ma in che cosa consiste? È qualcosa che può risolvere la situazione a suo avviso? Ma certo, per 100 anni abbiamo dato festival in continuazione, tenuto a bada le tenebre e salvato la nostra bellissima città. Qui sulla spalla del barone compaio io. Dico. Cosa consiste esattamente questo festival? La sua coscienza. Doveva essere una occasione di gioia. In sull'altra cui si spalla facevano... compaio ancora io, perché se sono solo io che faccio coscienza del barone. Qui si faceva splendere una palla di fuoco nel centro della città. E nel frattempo si intonavano canti, si facevano splendide recite, rappresentazioni teatrali. C'è tutto con gioia. Ma adesso ho in mente una cosa che veramente purificherà questa città una volta per tutte. Guardie! E sentite dei passi che è la cosa del bruciare i canti in sottofondo. L'abbiamo già un po' fatta. Esatto. Non erano proprio canti. Te l'ho detto, io praticamente... Cosa dice, guarda? Probabilmente io vengo da questa regione, cioè arrivano e mi trovo troppo a mio agio. Nella stanza quattro guardie e io non ho memoria, no? Penso che mi trasferisco. Mi piace questa città. Sta balbettando in preda al terrore più assoluto. Ah, ok, posto. Però poi dirgli qualcosa. Dai degli schiaffi. Taci, prete. Padre. Siamo uomini! Il barone e nani! Okay. Era giusto per ok, un pazzo. Il paladino Barone è pazzo. Barone è che non l'ho capita, è incompresa. La prego ci dia possibilità anche noi di aiutarla a proteggere la città. Ma voi sarete fondamentali in questa cosa. Sarà bellissimo. Ci sia qualche dettaglio in più, la prego. Seguite le mie splendide e gioiose guardie. Le fiaccole. Istruiranno loro sul da farsi. Quando ha detto sarà bellissimo, non so se era Catta che diceva sarà bellissimo. Perché secondo me, se lei ci desse la possibilità di collaborare con la guardia cittadina, sarete fondamentali per la riuscita del festival. Potremmo provare a stanare queste progenie e cercare di isolarle. Oh, sì, così no, che si possa fare il festival in... No, ci penserò io, istruirò le mie guardie in merito, non vi preoccupate. Ah, siamo in una botte di ferro. Barone, mi scusi, poi se la interrompo, signor Barone. Lei quanti anni ha? Signor Barone. Signor Barone? Signor Dottor Barone. Buongiorno. Perché gli fai delle domande del genere? Visto che è da 10 anni che fa ste cacate. Sì, qui è quello l'ho sentito. No, è perché, come avete avuto modo di intuire, prima di lui c'era il padre, il nonno, il bisnonno, che sono tutti raffigurati nella sala d'ingresso, che vanno avanti con sta storia. Però ormai tirali fuori gli anni, dai, sono curioso anch'io. Ah, no, vabbè, dai, dalla faccia avrà tra i 50 e i 60. Comunque... Sì. No, vabbè, però vaffanculo. Eh no, questo è nel gioco, però. Beh, no, questo è diciamo. L'ho fatta. No, questa puzza, questa no, puzza. Da Giulio. No, ma la risposta del sommelier. No, no, tranquilli, questa non puzza. È il sommelier delle scorecce. Cos'è? Beh, no, questa puzza, quelle, quelle rumorose di solito. Sì, ma dovevi vedere come l'ha detto questa puzza. Aprite la finestra. Io non so perché ho chiuso. Perché vabbè, nel gioco. No, qua non è arrivato. Comunque, hai già spiegato tutto. Il solito egoista. Comunque dico. Il solito egoista. Sì, Ale! La passerella! No. Il solito egoista. Comunque dico. Come saremmo coinvolti noi in questo piano? Oh, vi diranno tutte le mie guardie, fate dissequamente quello che vi diranno di fare. Soprattutto Isaac, non volete che perda la pazienza. Vabbè, comunque poi c'è anche della padre Lucian come funzionano questi festival. E del prete? Del padre Lucian? Sembra che tipo vogliono bruciare noi per... Sì. Ah. Beh, hai ragione. Cerchiamo che non sia così. No. Ridevo con voi, non c'ho... L'ho capito io che ero da fuori. No, facciamo un insight, dai. Ah, cazzo, hai ragione. Ridevo... Comunque cazzo, faccio un tiro, faccio un tiro di persuasione. Sì. E dico sono d'accordo di fare questo bellissimo party, però credo che per gestire le progenie serve qualcosa un po' più mirato, più costruito. Prima 11 più costituzione 16. 10. Vedi, mentre lo dice fa così. Ma tanto tra che sei cagata. Cioè, tu parlavi ma parlato al suo occhio come se dici coglione. Isaac, tu che ne pensi? Ho fatto 10. Tu hai 10 hai fatto. Sì, 11 dato meno 1. Sì. Non più 6. No, ovviamente no. Uffa. E il però beh, ce l'hai dato la suo dato tirapiedi di 4, vero? Aspetta, Isaac, il suo tirapiedi va da lui e bisbiglia qualcosa nell'orecchio. Perception, perché se voglio sapere se voglio essere riesco a beccare qualcosa di quello che dice. Pure leggi il labiale. Questo dado, che cazzo di domanda? Dove? 14. Provate a leggere il labiale. Boh, posso provare a leggere il labiale? Che cazzo di domanda? Anche se non un cazzo. Con 9, perception. Sì. 14 comunque. Che sembrava un 21. 14 totale. Le leggo il labiale. Allora, uno di voi riesce a leggere nelle parole di Isaac le... Riesce a leggere le parole esca e sacrificabili. Faccio un sorriso ancora più sorridevole. E macello. Tu e macello. Ah. Stanno parlando di ieri sera. No. E io? Mi ricordo che non siamo ancora pronti a far notare 4 progeni. Fatto, 14. Bisbigli le parole carne e cosa cosa bisbiglio? Io sto ascoltando. No, ci sto rimando contro. Ma c'è io carne. Ci dice che fai l'IPA. Percepisci. Ah, capi, che altro gli fa? Carne. Macello mio, morto. No, carne. Che carne? Sì. Carne. Righine. E come si dice? Salsa barbecue. Bottega. Carne e bottega. Bottega, allora. Carne e bottega. Unendo le cose insieme, io ho letto. No, ma io non so proprio quello che tu che. Vabbè, ce lo diremo dopo. Possiamo. No, proprio il momento mentre stanno parlando. Vabbè, quindi io ho fatto il tiro su persuasione. Mentre parlo, questo qua comincia a bere, ma carne, che una cazzo di gomma in cannuccia. E poi e poi il barone dice funghetti. D'accordo, come sempre hai ragione, mio fedele Izek. Vi affido al mio secondo in comando e vi dirà lui come ci potete aiutare per risolvere questo problema. Izek si rivolge a voi e vi dice: seguitemi e non fiatate. Avete fatto deragliare tutto il fuoco. E non potete puzzette. Possiamo riprendere le nostre armi? Vi verranno consegnate all'uscita. Ah, sì, sì. Voi non uscirete. Grazie, Izek. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, Izek. Sorridendo. Vabbè, vado vicino a lui. Ah, cioè, a chi ho vicino, non so, io dico io. Ho capito, carne e bottega. Sì, gli dico invece, ho capito, esca, sacrificabili, macello. Sì, quindi forse. Ok, nel tempo io parlo con il padre Lucia. E dico, ma padre. No, però carne e macello le mettiamo insieme. Carne da macello, bottega. Esca. Fare esca nella bottega, tanto sono carne da macello. Sacrificabili. Ah, almeno ho capito il pericolo. Spero di sì. No, su bottega. Cioè, lui e tutto questo mentre picchia un vecchio in una chiesa. No, bottega. Cioè, siamo sicuri che sia che intenda... il posto dove farvi, diciamo, da esca. Cioè, sia un problema anche per lui, voglia essere dalla parte del progetto. No, quello no, assolutamente. Magari è lui una progetto. Però se sta per dirti il qualcosa, Izek si gira e dette, ho detto di stare zitti. E Luciana si zittisce. E poi è entrato nella chiesa. No, non è entrato nella chiesa. Chi è entrato? No, non è entrato nella chiesa il barone, scusami, ma guarda. Però era la luce del sole il barone. Va bene, così dice Izek. No, il barone è pazzo. Izek vi dice di seguirlo e vi conduce di nuovo alla chiesa. Ah, quindi abbiamo di nuovo le armi. Sì, ha detto vi sarete riconsegnate all'uscita. All'uscita della città. Ok. Va bene. Vi riporta alla chiesa e vi dice: andate a chiamare i vostri compagni. Ma cosa sta succedendo? Ci devono dare le istruzioni per il Grazie, scemo. Però vogliamo sapere. Non aiutare. Padrone Izek, sai cosa fare? Non ti ho ancora dato il permesso di Grazie parlare. Il mio personaggio lo fa davvero. Ci devono preparare al festival. Qui stiamo rischiando tutti la vita. Non dice altro. Izek. Buongiorno. Buongiorno, Izek. Questo qua è un 20 su persuasione naturale. Izek, non so se hai notato. Vabbè, ha fatto 10. Guarda, c'è la nebbia. Chi è che dobbiamo chiamare? I nostri compagni. Ah, vabbè, chiamiamo i nostri compagni. Che hanno le armi. Ora siamo qua. Cosa dobbiamo fare? Va bene. Voi, vabbè, venite chiamati dai vostri amici. Vi siete resi conto del pericolo oppure no? Vengo col vecchio picchiando. Da porti dietro ogni tanto. Se è vero quello che dite. Si tratta di una minaccia al di là delle nostre possibilità. Già. E il barone questo l'ha capito? Ma forse collaborando potremo. È quello che spero. E allora perché non ci spieghi parte del piano così possiamo collaborare? Io non rischierò inutilmente la vita dei miei uomini in un'impresa senza possibilità di successo, ma rischierò volentieri la vostra. Ma non si doveva festeggiare la festa del sole? È l'unica guardia tutto. Con noi. È l'unica guardia con noi. In questo momento. Ci sono anche le altre quattro guardie di prima. È arrivata la polizia. Io faccio la 90. Posso intimidirlo usando la forza. Se lo prendo, ciao a tutti i poliziotti. Che ci la parete. Vabbè, è passato. No, cosa? Dice che il mio signore. Tu non sai cosa vuol fare? Hai sentito, lo prende di peso e lo sbatte. Voglio intimidirlo, voglio parlargli. Sì, lo sbatte con la voce. Fammi parlare prima di iniziativa, però magari lui mi risponde e finisce lì. Mi metti le mani addosso o gli parli? Cioè, voglio prenderlo, a metterlo al muro e dirgli adesso ci dici cosa sta facendo. Allora, posso dire una cosa? Posso intervenire una cosa? Per giocare in maniera seria, quello che lui fa, fa. Io lo faccio, in ogni caso lo faccio. Però fammi dire la frase, quello intendevo. No, però esatto, magari lui fa un motivo di intimidire e non deve tirare l'iniziativa, magari. Era quello che intendevo. Non è che fa... 3, 3, 1. No, ma lui fa questa azione, che può essere... quindi dice, percepita come modo... ostile, okay. E quindi magari lui è più veloce di lui e gli pianta un coltello in gola. Ah, ok. Sì, bello, mi piace. 4. 15. 11. Non me ne sto segnando. 7. Allora, dove sei? 15, eh. 11. Patk, 15. Dicendo Patk con contenti. Poi, Atanas. 7. Io 4. Presentare tu. Byron, 4. Io cosa tiro prima? Sì, beh, iniziativa. Sai, iniziativa 8. 8, Garrosh. Sì, sono qui. No, sono dopo di te. Cazzo, non posso mettermi nelle. Chi manca? Vardistran? Io ho fatto 11. No, ma io sono. È così, il secondo personaggio riuscito di questa campagna. Sì, posso tirare in la cosa tra l'altro è molto specifico. Magari può tirargli un coltello nell'occhio, tacassarlo, volare lui e il prossimo personaggio che fa il prossimo coltello con scritto rifà il PC. Sì, sì, sì. Rifai. Questa non serve. Potrebbe giocare Idrex. Dopo. Io andrebbe di fare un ranger elfo, se vede un ranger elfo tipo ma cosa sto passami per favore. Beh, dopo tutto il manuale è già salito di un livello in più rispetto all'altro. Aspetta, ma se io lo intimidisco e finisce lì, non cercare tutte le informazioni, fammi fare la mia azione. Magari non è proprio quello più in fondo che volevi. Dipende che ordine sono loro di iniziativa. Magari lui non ha fatto più di 8. Aspetta, va bene l'ordine di iniziativa, però se uno ti prende, ti mette lì e ti dice una frase, non è beh, che ma magari lui non si fa prendere. No, è nel senso che il tuo è un atto ostile. Ma se tu magari non si fa prendere. Non lo so, guardia. Io lo prendo, però magari ce lo fai. Capito? Così e lui fa ti toglie le mani, ti tira un cartone. Vabbè, allora vuol dire che lui è già ostile di base con me. No, vabbè, era abbastanza chiaro. No, ho capito, ma non ha l'arma sguainata che me la punta contro. No, magari tu questo vale anche nelle regole, tu provi a fare così, lui fa oh cazzo fai e mi infilza direttamente guardia con, cioè, no magari non è così veloce, forse sì, cioè se uno vuole fare un'azione di intimidire non è automatico il combattimento. Vabbè, adesso ammazziamo Izek e i suoi scagnozzi, poi andiamo da Barone e fa il barone, non ha senso, è una guardia cittadina, cioè, lui non può fare un'azione prima che io prendo il braccio con la mano, Izek c'ha altri qua, ma di solito l'azione di intimidire non è mettere le mani addosso alla persona. Intimidire con la forza, però cosa fai? Sta roba? Spacchi qualcosa, reagire, no, spacchi qualcosa oppure gli vai a muso duro, ma non lo tocchi ancora. Se lo tocchi puoi iniziare il combattimento di fatto. Cioè un conto se lo fai con una merlina che non ha senso, che non ha senso che il combattimento inizi. Io lo voglio fare in senso narrativo, non voglio fargli male. Vai, scio, dai. No, ha capito, però vai lì con una minaccia. Se lui percepisce la minaccia puoi reagire. Ha tirato basso, magari ha tirato più alto di lui. Dai, che non ha senso che non possa fare un'azione prima di lui. Cioè lui non si aspetta che io faccia questa cosa, quindi io lo faccio poi lui reagirà. È così. Cioè, non ha senso. No, è che il tuo sbatterlo al muro. Io non estraggo l'arma. Il tuo sbatterlo al muro. Cioè, lui è di fianco a me, lo prendo e lo sì, ma il tuo sbatterlo al muro è più o meno come un attacco. No, non è quello che voglio fare. Nell'intimidire, non prendi la persona e la sbatti al muro. Questo è. Boh, rimango totalmente in disaccordo. Beh, comunque è la regola. No, la regola è che intimidire è un'azione e non è un combattimento. Sì, anche fatta sul carisma. Dipende un po' dalla situazione, forse. Nel senso che magari tipo se prendi il bambinetto facevi direttamente, cioè, oppure tipo il popolare. Ma non ha senso che lui agisca prima di me. Se fa più questo iniziativa. Non ha senso. Ma non ha senso. Non siamo pronti a combattere. No, allora ma è come se tu inizia a mettere la mano e lui la vede, si scansa e reagisce. Però mentre gli parlo, magari... No mentre pratico, vede la mano che arriva. A livello pratico la cosa è un'altra. Lui di fatto, agendo prima di te, ha diciamo un'azione preparata. Cosa significa? Che reagisce in base a quello che fai tu. Tu hai già detto cosa vuoi fare, quindi agirai e lui di fatto è più pronto a reagire. Non so, può dire. Questa è la lato pratico. Vabbè, allora tutti gli NPC sono pronti che se uno li tocca reagisce. Potenzialmente sì. Magari non tutti, ma Izek sì. potenzialmente diciamo che è il capo delle guardie, potenzialmente è sempre in però guardia. Dipende dal contesto, cioè tipo se sei in locanda e il popolano lo attacca contro aspetta, il muro magari ci sta che reagisca, non ha senso che di base lui può farlo prima di me. L'idea, cioè, secondo me è come se lo sorprendessi. Tu hai già detto cosa ho fatto? Tu hai già detto cosa ma lui l'ha detto al master, ma il personaggio non lo sa. Ma lui dovrà fare di fatto è come se fosse. Ma se tu, nella realtà, quindi cioè, tu puoi sorprenderlo, ma l'altro può anche non farsi sorprendere, cioè, esatto, può anche essere esatto, che non lo sorprendi. Sta facendo lui. Esatto. Sì, non è un round, non ci può essere un round di sorpresa perché sei entrambi cosci. Cioè, nel senso, normalmente sì, sicuramente una persona non se lo aspetta, però metti che invece l'altra persona è addestrato. Ok, ma la sua prima. Cioè, se tu lo fai, che ne so, con un militare super addestrato, okay, probabilmente finisce male. Cosa gli dici? Sta prima scelgo. Per intimidire uso la forza, quindi non le mie parole. Ah, ok, proprio così. Beh, prende. Non gli dici niente. No, e poi gli dico, però non è l'intimidire la forza, è perché voglio sapere, gli dico, ho sentito... Cosa hai bisbigliato? Parte di quello che hai bisbigliato all'orecchio del barone non mi piace, voglio saperne di più. Devi dirmi cosa gli hai detto. Allora, vediamo. Quindi uso la forza pura, giusto? Che non ce l'ho io in quello sta attaccato al muro. Sì, l'ha cioè, preso. Non voglio fargli chissà cosa, lo prendo e lo sposto vicino alla parete in modo che lui tecnicamente non riesca a muoversi, ma neanche gli voglio, non lo voglio prendere in lotta. Cioè, capito? È come se tu prendi uno, gli fai così, lo fermi lì e gli dici, oh. Cazzo fai? No, in realtà io non ho reagito perché sono rincoglionito, eh? Ovviamente lo devo fare con abbastanza forza in modo che lui, cioè immagino che sia bello grosso. Vai, mostraci, devo usare la forza. Allora se è bello grosso prendi lui come esempio. Con forza. Intimidire non ce l'ho per quello. Vabbè, allora è già una volta. Allora forza 20. Mi sono dovuto mettere in mezzo. È diverso però adesso. Quanto ha fatto? 20 cioè? Totale. Era un tempo fa. Sì, cioè adesso è peggio. già allora era rischioso. Io non sono violenta. No, ma ti saresti difeso, quindi sarebbe finita solo in un modo. Ah, hai preso quella più fredda, Giulio? Boh, mi sembrava di sì. Poi non stato lì a toccare e misurarla esattamente, però mi sembrava abbastanza fresca. Brucia questa. Perché sicuramente... C'è una tisana questa, brucia. Non lo so. Tisana. Conoscendo tutti voi... Quanto hai tirato? Quanta poca fiducia. 20? Ho già perso un cellulare. Facile. No, ho capito quello che hai detto. Lo faccio con uno addestrato, quindi hai il riflesso di potersi difendere. Così. Però no, è che quello che voglio far capire io, non voglio fargli male. Quindi non è che lui tipo... non lo sa, capito? No, però se tu lo vai a prendere. Sì, lui aspetta, lui di reazione può provare a liberarsi, a spingermi via, ma non ha senso che adesso lui tipo dica ti attacca con la spalla. Ah, ma lì perché magari è un passo, fa intendo. No, è che se ha la... Cioè. No, è vero, anche per dire in discoteca può capitare che tu a uno dai un urto, questo qua li prende male, ti dà un cartone, anche se tu non vuoi fare niente. Quello che dice, oppure sei in discoteca, stai giocando tranquillamente a Pokémon. Che è successo? Tu? Non sei stato in discoteca perché giocavi a Pokémon? Sì. Davvero? C'era anche tu? No, non sono insultato. No, era quella, io mi ricordo. Sì. Questa è meglio che vederti essere pestato. Okay. Non so. Raccontamelo, scorreggio di nuovo. Ma andare in bagno, c'è un bagno là. Una cioè... minaccia. Intimidire con stavo usando costituzione. Una delle più antiche tecniche di rimorchio. L'esca. Giocare a Pokémon per attirare le ragazze e ha funzionato. Sì, immagino. Tra l'altro, in realtà in pista lavoro c'era un sacco di gente che giocava a Pokémon Go che monotava. Sì, era appena uscito. È vero. Oh, lo so, questa è arrivata e fa: oh, guarda, io c'ho questa. Dico, era una strasbronza che ha tipo detto: non mi ricordo le parole, però alla fine è andata via facendogli questo. Ah, perché lei ha capito che tu giocavi a Pokémon? Sì, lei l'ha visto giocare a Pokémon, gli ha tipo preso per il culo perché invece che andare a figa giocava con i Pokémon. Il concetto era questo. Beh, meglio Pokémon questa ritardata comunque. Sì, no, sono d'accordo, perché poi lo... Poi guarda, dopo la... scoparmi Pikachu, la tua faccia di merda, cogliona! Ma ti droga con le tue amiche! La figa selvatica l'ho catturata con la Pokémon. Oh. Io di risposta gli ho tirato una Pokémon. Che stiamo aspettando? Cioè adesso cioè, ti devi una divina commedia, stai leggendo. Dai, Katta! No, si è accordata sul serio. Katta, se tu non parli, noi cazzeggiamo. 20. Prima che lui possa fare questo, lui ti piglia alla gola. Non è serio, secondo me. Allora, più veloce di quello che puoi fare tu. Lui ha tirato un 20. Sì, ho capito, ma allora la mia, se io voglio intimidire non posso perché lui sta già combattendo con me nel passato, cioè lui viaggia nel futuro. Hai riflessi più veloci dei tuoi, no, hai riflessi più veloci dei tuoi, tu sei lento e lui ti prende la gola prima che tu possa dire qualcosa. Dai, ti preparo una torta lì davanti. Dai, sarà divertentissimo. Fai una prova di atletica o di destrezza. Ma scusami, perché gli hai fatto tirare il 20 allora? Sì, esatto, non ha senso allora che io abbia tirato intimidire, vabbè, comunque. Vincono i personaggi del master in ogni caso 11. Aspetta. Sicuramente meno del suo punteggio. Oh, sì. Ah, beh, non ha senso. E quel 20 lì? Cioè, allora non userò mai l'abilità. Ma non ha fatto 22, ha fatto 22. No, ha fatto 20 scemo. Io ho fatto 20 totale. Sì, totale. L'ha fatto di dado masturbandosi. Non ho capito perché gliel'ha fatto tirare, però. Per sfottere. Io pensavo di sciogliere. Sì, si dice così. È inutile tirare tiri d'abilità. Non beh, scusami, però piano. No, è perché se avesse vinto Sceo. Piano, però, a fermi. Col dado avrebbe fatto davanti tutti voi. Cioè. Ah, vabbè. Giusto, Katta? Se avesse vinto Sceo con 20, faceva lui l'ultima edizione che voleva fare. Sì. Quello ha tirato. Ma semplicemente se non gli avesse messo le mani addosso, ma dato che ha voluto fare così. Ma pensavo che gli avesse voluto tirare perché era prima lui. Con una mano ti prende il lotto. E con l'altra tira fuori la sua ascia da battaglia. E basta una mano e con la terza ti schiaccia. Quanto è alto Izek? Molto, è un omone grande grosso. Io ho 18 costituzioni, gli basta una mano per lotta. Quindi. Sono splendente. Sì, è molto grosso. Ho capito, è alto 2 metri, è alto 3 metri, è più grosso di questo. Di è alto 2 metri tipo. Sì, è alto 2 metri per capire, per avere l'immaginario. Aia, aia, è un gladiatore. No, è un personale più giochi da palestrati. Guarda, sono Arci, cosa c'è? È questo quello con l'ascia. Stavano a dirlo forse. No, vedi, le corte solo che sono dure, molto dure. Queste sono corte. Schifo. Io ero una donna, vedi? Questo fa schifo. Questo è si fa così, comunque. Hanno quel millimetrino che può tagliarlo. Siccome sporco, tagliano, vedi che tagliano. Va bene. Si tagliano, ma vedi che sono dure, sono diverse dalle tue. Io non ci sono. È diamante, può scavare la roccia. Sono diverse, sono va bene, tutto oggi interessante, possiamo andare avanti. Scusate, non è che sono donne. Mister lamentoso. Sono una donna perché non te le tagli, vezze. Non è che sono donna perché sono donna. Non è che c'è una sono diverse. Dai, sono diverse. Con l'altra mano tira fuori l'ascia e ti dice, ripenserei quello che stai cercando di fare, nano, prima che sia costretto nano? Delle montagne, quindi non ho più. Prima che sia costretto di abbassare ulteriormente la tua statura. E Patk, fai qualcosa? Gli ha preso in una mano, ha tirato fuori una cosa e ha detto non costringermi a usarla, sostanzialmente. Ok, usala. Ma tu sai, che ho 20 in canna, quindi... Ha detto la stessa frase che ha detto Elmer. Io dico, potrei dire quella di Legolas: moriresti prima di vibrare il colpo. Sì, vai, fallo. No, io dico signor Stra. Devo chiamare il mio migliore amico. Lascia il mio amico Conte. Solo che si dice Conte e finisce con tutto. Tocca a un fratello nano, finisce male. Cugino. E 12 più 5 di costituzione, 17. Perché? Uno di carisma 16 che torna a 11. Non lo so che cos'è. Cosa stai cercando di fare? Intimidirlo? Ma di sì. E gli indichi lì col bastone da druido. Sì, dico di Mellon! Sarei stato figo se avessi fatto tutto questo da orso. Perché sarebbe uscito come. ovvio che se rompe il cazzo ancora diventa lo bestemma di botte. Ma se lo uccidiamo cura a questo punto noi. Bruciamo la città e uccidiamo tutti, cioè. Attimo, lo sa anche lui. C'è un'altra di iniziativa, Io ho fatto 15. Tu hai fatto 4. Adesso sta Patk. Dopo Patk sta un'altra guardia, però adesso sta ancora facendo Patk. E tu quindi gli dici lasciare il mio amico, lascialo, finisce male. Sì. più o meno. Sì, tradotto sì. Sta mano può essere piuma o può essere vero. E hai tirato un intimidire? Sì. Vediamo se riesce a intimidire. Era più una concentrazione, secondo me. E quindi se non lo tocchi è possibile intimidirlo, ma se lo tocchi diventa Superman e non puoi fargli niente. Senza senso. È quello che ti ho detto, che tu gli fossi andato a muso duro. Si mette paura, tirato se invece lo tocchi diventa più forte. No, è perché è un'azione ostile verso un personaggio. Anche intimidirlo è un'azione ostile. Sì, ma è vocale. Sì, ma è un'altra cosa. È la stessa cosa. È come dire, no, è io non gli ho provocato del dolore, non gli ho fatto male. No, ma male. Tu gli sei andato addosso fisicamente. Se gli vado addosso con le parole, sempre ostile è. Gli vai addosso con le parole, sceo. È quello che hai fatto tu. Sì, ma se io Giulio dico, oh, stai calmo, Giulio, se comincio a prenderlo per la gola, la sua reazione è diversa. Sì, ma se lo faccio per intimidire si mette paura in ogni caso se il tiro ha effetto. Sì. Ma se non posso neanche effettuarlo, quel tiro non ha alcun senso. Me l'ha fatto allora effettuare, solo che essendo che lui te l'ha superato. Non me l'ha fatto effettuare, lui è di iniziativa migliore della mia, quindi in automatico il mio intimidire non esiste. Andiamo avanti. Lui rilascia il nano. E quindi non ha senso. Cioè, una guardia. Ha più paura di te da lontano. Una guardia che sta dopo di te si gira e comincia a correre verso le case. Però noi non ci hai fatto giocare. Adesso non ero di levezza. Scusa, se lui ha agito di nuovo, però. No, ha mollato la mollata. Vabbè, ragazzi, in reazione alla sua prova. C'è una guardia che scappa, c'è solo una cosa che io posso fare. Dopo di questa guardia tocca a Verdi. I dardi. Una guardia è scappata? Sì. Cioè, si è girata e ha iniziato a correre. E la mia reazione per colpirlo? No, sono a 10 piedi da voi. No, gaga, perché hanno le alabarde o le lanciano? Dico, prendo, ovviamente prendo comunque il mio spadone e dico: non c'è motivo di litigare fra di noi, dobbiamo essere tutti alleati in questa cosa, o non ne usciremo vivi. Prendendo lo spadone, beh, sì. Non c'è motivo di combattere tra di noi, beh, idioti. Sai. Dico, e predico la calma e insomma, un po' di ordine e tiro un persuasion. Ah, 21. Che è più efficace di mettere mano addosso a qualcuno. Dai, sceo. Beh, il mio 21 è più alto del tuo 20. No, il mio 20 non esiste. Come esatto. Se non l'avessi creato. È ancora più alto. La guardia che sta dopo di te si inginocchia. No, non si inginocchia, però ha in mano la sua lancia e sta in guardia, ma non fa altro. Garrosh, cosa fai? Sì, il 21 non era rivolto a lui, era rivolto a Isaac. Quanto ha fatto Garrosh? Cioè, sei rivolto a tutti, no, beh, sei rivolto a tutti. Dopo di te stava una guardia e no, ha fatto sì, questo. No, volevo che fosse chiaro. Cioè, volevo. Dopo Garrosh c'è un'altra guardia e anche lei è tranquillizzata, sembra tranquillizzata. Atanas, fai qualcosa? Non sa prima Garrosh. Ha appena detto che non fa niente. Cosa posso fare? Cosa fai? Non sa più in grotta. Non lo so. Quindi? Non lo voglio so. Combattere, non era cioè, all'inizio. Ma avevi puoi dirlo. Avevi 20? Cioè. Prendi non posso parlare no, perché mi attacca prima. L'anima del mio personaggio vorrebbe scagliarsi contro le guardie. Dici, non volevo essere ostile, voglio solo cosa vuoi fare tu poi. Vabbè, non lo sapremo mai, non me l'ha fatto fare. Che cosa fa nel suo turno? Adesso sta Antonas. Vabbè, io mi siedo. Ok. Classic Giulio. Che ricordi? È la cosa più utile questo. Bar, fai qualcosa? No, l'hai lasciato. Ok. Bene, calmo. Dice, adesso che sembra che ci siamo tranquillizzati, vi dirò che cosa farete. E vedete di eseguire i miei ordini senza scherzi. Dovreste fare. Cosa faremo? Non è molto brava a coniugare i verbi. Voi ci Di Maio anche lui. Ci porterete, infatti ha un po' lo sguardo. Ci porterete nel luogo dove dite che si annidano queste creature e le stanerete. Questo è il tuo piano. Ora ho capito perché sei il capo delle guardie cittadine, perché sei il più sveglio. Grazie. Buongiorno. Non hai fatto, il tiro. Di deception. Mi permetta di fare notare almeno un paio di cose. Sei il più sveglio. Dove si trovavano prima probabilmente non ci sono più. Due, quindi bisognerà probabilmente cercarle. Possiamo comunque andare là. Due, se entriamo noi ammazza noi, poi quando arriverà la notte esce fuori e ammazza tutti voi. Secondo me dovremmo. Mi sembra un ottimo piatto. Mi sembra un'ottima idea, bravo. Secondo me dovremmo festeggiare il sole, la divinità del sole splendente, bruciando un po' tutta la città. Comunque. Bravo, mi piace. Potresti essere la guardia. Questi sono gli ordini. Se bruciare la città, qualcosa. Anche... Ma. No. Sono gli ordini di chi? Del barone. No. Il barone ha parlato di altre cose. In mancanza del barone sono io l'autorità più alta in questa piazza. Sì. Ergo. Sembri alto, ma meno numeroso. Volete sfidare ancora la mia pazienza? No, vogliamo sfidare, vogliamo che capisci il problema. Che se noi andiamo dentro e moriamo, perché moriamo contro 26 progenie, dopo avrete meno gente con cui provare a difendersi. Cioè, noi sappiamo dove stavano, possiamo bruciare la casa. È difficile. Noi saremo lì a coprirvi le spalle, ma come vi ho detto, non rischierò la vita dei miei uomini. Beh, sì, potremmo bruciare la casa. Sì, almeno. No, rischierò di dare fuoco alla città. Ah! Allora, vabbè, okay. Volete diventare tutti progenie vampiri, che sarà... Potete stare attorno alla casa, evitando che il fuoco si propaghi, e noi bruciamo la casa. Non brucerò neanche una casa vuota per niente. Ma è vuota. Citiamo. Non lo sapete, se non andate a controllare l'interno come vi ho appena ordinato. Sto cominciando a spazientirmi. Lo sappiamo che è vuota. Il proprietario è dentro la chiesa. Attacchiamo, attacco. Potremmo attaccarlo, è molto più forte. Vi ordina di fare strada e di andare nella fare? Casa. Fare? Fare cosa? Ha nominato? Strada. Ah. Vabbè, è la bottega delle bare, il barista. Ma tu stai continuando a bere? Prego, incamminate. Far pipì, bere, far pipì. Funziona così, sai. Così? No, in che senso? Ok. Io quando, come dai, faccio dico. Di solito quando sono combattuto, guardo il paladino, che è la guida morale del gruppo. Cosa è successo? Aveva ordinato di andare alla casa. No, beh, lui ha detto il piano è che noi moriamo e, loro, e poi fate. E lui cosa ha risposto? No, fermi. Meglio che anche noi. Pensate a dentro contro sette progenie. Cioè, fermi. Quattro. Più altre potenzialmente. No, sono quattro. Detto che dei corpi mancavano. Beh, l'avranno uccisi, cioè, faccio una stima io. Dopotutto non ha fatto economia. No, comunque l'altra volta ho guardato il paladino quando stavo per uccidere il prete. No, fermi. E anche stavo quando per uccidere il prete. Sì, e stavo anche per... e stavo anche per uccidere quell'altro, Milivoje, mi sa. E è sempre lì. Allora, Izek. E ogni tanto guardo la guida morale del gruppo. Andiamo, intanto andiamo. Però ascolta, che cazzo fai? Poi è chiaro che contro i popolari non è che sto veramente. Cazzo mia, però. Ho un personale problema con queste progenie, per cui sono il primo a volerle eliminare dalla faccia della terra. O di Barovia. Per cui non è questo. Ma se tu pensi, cioè, voi siete venuti in chiesa con 12 guardie. Nella pericolosissima chiesa con 12 guardie. Ora stiamo andando ad affrontare delle progenie con 3 guardie. Mi sento un po' preso per il culo. Tira su Persuasion. È un bel uso. So anche tirare su Persuasion. Tira una bella clavata. Per cui il resto della guardia cittadina è già mobilitata nella posizione in cui ci stiamo recando. Siamo solo venuti qua a prendere gli altri compagni. Ah, quindi sapevi già che era lì il posto. Avete detto voi. Adesso un sacco di tiri dal barone. 19 e 220 di fila. Dobbiamo sprecare il supporto del barone. Che è della casa del. No. Del coso. No, non abbiamo detto niente. Vabbè, fa lo stesso, vai. Cioè, nel senso, vabbè, ti sta mobilitando lì. No, l'importante è questo, no, va bene, non è un problema. Sì, cioè, il resto della guardia cittadina. Noi possiamo anche entrare. Guarderà il perimetro, ma non nessuno entrare, di loro entrerà. Però se sono dentro, noi usciamo. Perché ci ammazzano, se no. Voi quindi, dovrete entrare e fare. Qual è il tuo piano? E per illustrare la situazione. Se riuscite a stanarle e portarle di fuori dalla casa, il resto dei miei uomini potremo provare tutti insieme a ucciderlo. Ok. Però no. Non mi sembra che abbiate lo spirito giusto ci serve... collaborativo. No, perché loro ci non verranno fuori. Cioè, al massimo possiamo riuscire a scappare. Cioè, ci serve una forse mezz'oretta. Bisogna avere qualcosina in più come idea. Ci serve una mezz'oretta per prepararci. Ah, penso. Accordato. Rega, dobbiamo fare scorta di acqua santa. Ci può stare. Vabbè, ci sono due preti, cazzo. Tra l'altro non c'è anche... Dove è finito Lucian? Combo. Ma forse anch'io posso... Lucian di me! No, non lo so. Potremmo usare il sangue del prete. Creare acqua santa credo sia un incantesimo. Lucian, tu sai santificare dell'acqua? Sì, è una cosa che si fa comunemente. No, no, ma santificare nel senso che brucia vampiri. Serve dell'argento. Comune. Nelle monete d'argento. Ma o della polvere d'argento, mi sembra. Siamo tipicamente senza soldi dall'inizio. Però no, nella, io, no, però nella roba di Ciccio van der Vovich magari qualcosa c'era. C'erano delle monete di Electrum. Anche. Non ne aveva prese. Argento. D'argento. C'erano anche delle monete d'argento. Le usiamole per fare. Ma non le abbiamo noi. Le ha date Salla qualcuno? No, io le ho date al prete. Ah, tu le hai date al prete. Sì, ma comunque non al prete. Oh, però al momento non le trovo. Okay. Mi sembrava fossero proprio 25. Con 25 si fa tanta acqua santa. Non so. E fa la reazione chimica. Perché se viene fuori fai il bilancio, moli. 25 Ag, freccina. No, più. 3 litri, H2O, S. Lì stiamo parlando in moli, devi portare tutti in moli. No, vabbè, 25, nel momento non sai mica quanto sono. Beh, più o meno. Converti, una moneta sarà grande così, vai alla densità dell'argento. Una volta l'hanno fatto con le monete d'oro, perché avevamo tipo 10.000 monete d'oro, abbiamo calcolato quanto ci stavamo trasportando. Non avremmo potuto muoverci. No, ma c'è il peso in teoria scritto nel 25. Sì, mi sa che è tipo... È esagerato comunque. Non così tanto. Pazzi di terzi. Oh, purify food and drink? No. Quello che ti toglie i batteri. Non posso farlo con questo, quindi. No. Non so, confesso, devo cercarlo con l'acqua. Water, ce l'hai, tipo, Giulio? Dovrebbe essere. No. Una roba del genere. Aspetta che lo cerco. Ah, no, sì, aspetta. Cioè, roba del genere. Tu ce l'avrai. Un'acqua non so che livello, di sicuro non è pronto. Create or destroy water? No, prova a cercarlo proprio con la sotto l'S. Dovrebbe essere uno dei tuoi. Sanctify. Ma non come cantrip. Dove lo sto guardando? Perché c'è un sanctify. Quindi sto cercando, pensavo fosse un incantesimo, ma no, trovo. Scusa, ma nel manuale del giocatore in acqua santa non ti dice cos'è? Sì, mi stavo andando a vedere quello, sì. Sanctify roba non esiste. No? Holy water. Cioè ti dice che è un'ampolla che come azione tu la puoi lanciare o versare il contenuto. E quanto costa? Sempre 25 monete. Quindi un'ampolla 25 monete? Però quella è quando la compri, capito? Potremmo comprarla. Ah, 25 monete d'oro. Holy hour. Speravo costasse di meno quella. Cioè, c'è l'incantesimo, ma non fa... trovo l'incantesimo. Sì, il prete lo fa, però appunto serve come componente materiale un po' d'argento. E pensavo di trovare l'incantesimo dove c'era scritto, ma non lo trovo. Comunque, vabbè, diciamo che se gli date altre 25 monete d'argento, oltre a quelle che avete preso dal tizio... L'unico che potrebbe averle è Salla. Va bene, allora Salla. Immagino, ma io non ho soldi. No, io d'argento non ho niente. Io ho 15 monete d'oro. Anch'io. Sì. Potete andarle a cambiare. Io non ho niente. Beh, in realtà abbiamo 60 monete d'argento nel... in un sacchetto di pelle umana. Comunque c'è scritto qua è del gruppo della casa, però sono mie, tue e sue. Cioè sono di noi tre, quindi non le diamo. Usale. Vabbè, sì, qua non sono un ladro, non cosa posso ribellarmi. Vabbè, mettiamo 25 metri d'argento. Ok. 60, 40, 35. Fa malissimo questa cosa. Vi benedice due fiaschette di acqua santa a testa. No, quelle sono. Quindi segnatevele. Ma segna nel bagaglio gruppo, è buono. E poi tra l'altro noi ne abbiamo già una. Sì. Per il pack, quindi ne abbiamo tre ora a testa. Mm-hmm. Tre a testa? Di fatto sì. In questo momento abbiamo tre ampolle di acqua santa a testa. Solo che l'acqua santa fa sì che loro non si rigenerino per un turno. Mm-hmm. Per il turno in cui sono. Ah, non prendono danni? Cioè sì. No, prendono anche però due danni. Però possiamo tirare, cioè un utilizzo è colpirli. Sì. E anche se io gli tiro, me la secca tutta. È una boccetta che tu gli tiri addosso, sì. Però se per quel turno non rigenera. Cioè, se noi a turno uno gliene tira una, per quante ne abbiamo a testa? Sì. Tre a testa. No, raga, se io divento animale, quindi non ha senso che giri con le boccette. Vabbè, tu no, però noi siamo in quattro, vuol dire che per 12 turni. No, bagnati il pelo e tirati addosso. Poi dietro ci manzare. Il problema è che sono tante queste progenie. No, infatti. Cioè, ce la possiamo fare contro una. Forse una la segniamo. Ma una l'avete già segnata all'inizio una, cioè, della campagna. Sì, ma. Ok. Se era da sola, era un bambino. Appunto, forse legata. Una. Legata che pesa le gariglie. Era solo chiusa nello scantinato. Però era una progenie vampirica in tutto e per tutto. Sì, ma voi l'avete tranciato di netto senza pietà mentre lei non c'era. Arci, poverino, era lì. Cioè, una ce la possiamo fare in gruppo, secondo me non ce la possiamo. Sì, tutti insieme, faccio un po'. Comunque, vabbè. Va bene, Isaac, aspettaci fuori, ci pensiamo noi. Ok, arrivate alla. Se no vai tu da solo. Al negozio del baraglio. Del baretto. Beh, io prima di iniziare potrei dare. Cioè, quindi lui vuole che noi entriamo lì? Perché non la sento, tanto non vengono fuori loro di giorno. Quindi. Catta, mentre lui ci dice questo piano, faccio una prova di intuizione. Voglio capire se è sincero. Comunque, in Xantar's Guide to Everything, sì. 15. C'è un incantesimo di primo livello per i chierici e paladini. Si chiama cerimonia. Ok. E fa diverse cose, tra cui benedire l'acqua. Benedire l'acqua. Bla bla. Cioè, tanto, ragazzi, noi entriamo lì. Casting time di un'ora. Uccidere poi. E consuma 25 monete d'oro. Non vorrei che abbiamo poca vita, ci cioè, 25 non comunque non ce la facciamo. Cioè, polvere d'argento per 25 monete. Ci danno una mano anche che riguardi. No, delle due. Cioè, magari se cominciamo tipo, se riusciamo tipo a distruggere tipo in una stanza, apriamo, entra il sole, magari ci può dare un vantaggio. Ah, tu hai fatto percepire intenzione. Sì. Allora, arrivate lì e vedete che ci sono anche le altre guardie tutte intorno alla casa e sui tetti delle case intorno. E sono equipaggiate ovviamente con la loro armatura, hanno delle balestre e ognuna di loro ha in mano sia una torcia sia un secchio d'acqua. E vi è stato portato lì vicino un carretto con un'otre molto grande, un serbatoio. Cosa c'è nel serbatoio? Acqua. Quindi possiamo dar fuoco? Scusa, avete tutta l'acqua proprio per spegnere un eventuale incendio? Quell'acqua serve per essere benedetta? No. No, serve una quantità d'oro allucinante. L'intuizione appunto che ha avuto lui vedendo loro questo piano e ascoltando le parole di Izek, che appunto se le cose vanno si mettono male loro danno fuoco a tutto con dentro noi, però esatto, quindi mi sta sul cazzo. Voglio bruciare una singola esca sacrificabile bottega e quindi voi, lui vuole che voi seguate il piano. Ma non possiamo semplicemente andarsene, a questa città è buona. È quello che ho detto io da ore fa, in effetti sì. Vai, entriamo e uccidiamo. Vabbè, va il bene. Fatto che noi vogliamo uccidere il generale ci può stare, però il fatto che ci facciamo da carne da macello a caso mentre ci dà fuoco. No, cioè è chiaro che loro ci stanno per uccidere, non capisco perché entriamo. Comunque glielo dico, Isaac, ma io non vorrei entrare. Isaac, ho capito il piano e mi sembra valido. Buono. Se non per una piccola particolare. Che dopo comandi alle guardie noi. Sa che uccidiamo tutti i guardi. Sembra un'ottima frase da paladino. Come possiamo non impegnarci in questo combattimento? Sfida. Entrare qui significa classica sfida, campione contro campione, orso contro Isaac. E chi vince fa il piano. Come possiamo non impegnarci in questo combattimento, in questa missione, con tutti noi stessi e col buon spirito, se sappiamo che fuori siete pronti a darci fuoco? È solo una precauzione. Abbiamo tutti fiducia nelle vostre capacità. È solo una precauzione. Non devi tirare. È giorno? Sì, è giorno. Era l'alba quando. Vabbè, no, ci sta, entriamo. Va bene, anche io. Vuoi rompere il tetto? Cosa vuoi fare? Rompo qualsiasi cosa io veda. Le finestre, tutto. Perché in che ordine entrato? Se ci attaccano, non riusciamo. Aspetta. Cioè, se ci attaccano. Ci sono le finestre a piano terra, no? Sì, sono tutte sbarrate da dentro. Vabbè, io ti guardo Isaac e gli dico: Isaac, non so perché. Se mentre noi combattiamo le progenie, possiamo provare a sfondare quello al piano terra da fuori. Rompo le finestre al piano terra. Possiamo farlo. Da fuori o da fuori? Da fuori. Dico, Isaac, se mentre noi cerchiamo di combattere le progenie, vedo anche solo una scintilla, il mio bersaglio non saranno più le progenie. E questo tiro serve? Questo è un tiro che gli faccio a Venrea, cioè io nel gioco tiro un dado. E poi ho un'illuminazione. E chiedo se comunque possono no. Darmi una scala. Oddio, di nuovo. Sì, possiamo rompere tutte le finestre. Noi schiocca le dita, vedete che quando schiocca le dita del suo metà della popolazione muore. Del suo braccio buffo c'è una fiammella che si puff, e le guardie, un paio di guardie vanno a prenderti una scala. Ok, uso la scala e spacco anche tutte le finestre del piano di sopra. Aspetta, in che ordine? Quanto tempo ci metti? Giulio, questo feticismo per le finestre. No, ha ragione. Per far entrare la luce del sole dentro casa. Magari però le progenie far entrare te dentro casa. Tu. No, perché c'è la luce del sole. In che ordine fai questa cosa? Cioè, prima spacco le finestre qua. Prima quelle di sotto e poi prendi la scala per salire. Noi diamo una mano. Io tengo la scala. Teniamo la scala, esatto. Vabbè, cosa possiamo fare? Cioè, c'è una scala sola. Vabbè ci saranno, avranno altre scale. Cioè, nel senso. Ok. E fate il giro toc toc toc e sfondate tutte le finestre. Non so se è di legno questo edificio. Ma possiamo piano piano sfondare le pareti sperando che crolli. Immagino se che non vuol bruciare, non penso vogliano neanche farlo crollare. Ma poi no, loro vogliono bruciarlo con noi dentro. Se no, no, vogliono, cioè lo bruciano se le cose vanno male. È quello che ti ho detto a te. Allora. Esca, sacrificabili, carne da macello, bottega. Allora, dopo che fate il giro del primo piano, praticamente dentro. Sbirciate dentro. Beh, sì, quando rompiamo una finestra. Sì. Allora, non vedete nessuno al piano terra? Nelle due stanze che potete vedere, perché quella del laboratorio non ci sono solo finestre. Vai, vabbè, c'è la porta già sfondata. Sì, c'è la porta. Quando entriamo di e il dimmi in che ordine sfondate le finestre del piano superiore. Qui non lo so, chiedo se il paladino ha dei suggerimenti per l'ordine delle finestre prima superiore. Beh, io mi ricordo dove era, però che l'avevo trovata. In realtà la progenie è lei che ha trovato l'armadio. È lei che ha trovato te. E di qua tu, Vezza. Ah sì, Vezza era qua, era Salla. Aspetta, che era però qua. Avevamo i punti. Ma in realtà possono essere due. Le abbiamo tutte, comunque a partire da dove ho incontrato la progenie. Ok, dalla stanza da letto. Ma probabilmente saranno in alto, oppure nelle bare. Sono in bagno. Beh, ci sono nelle... Sì, però bare, che è l'unica stanza, guarda caso, senza finestre. Se sono no, al laboratorio, senza finestre. Se sono nelle bare, cazzo, le potevamo... Se stanno dentro le bare adesso lo però se entriamo noi loro escono dalle bare ci menano prima di aprire la finestra. Noi saltiamo sulle bare e gli ci sediamo sopra. Ancora abbiamo fatto casino, saranno magari attive, però. Beh, io penso ho capito, non possono uscire perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 finestre che danno sulla stanza delle bare. In più c'è una porta sfondata. Quindi c'è di cucina in pasta. Beh, noi le apriamo. Ma che vada, ci servono per fuggire noi. Esatto. Cioè anche per darci delle vie di fuga, cioè ma che vada uno si butta dalla finestra. Mentre loro danno fuoco. Esatto, dai, va bene, entriamo. Aspetta, quindi qual è l'ordine in cui rompete le finestre? Prima la stanza qua. Ok. Poi qua, poi ci sono più scale, gli altri nel frattempo qui. Gli altri siete sempre voi? Sì, non so quante scale ci danno. Ci danno due scale. Due scale. Una di fianco all'altra. Uno farà qua, poi uno qua andrà qua e uno qua, e poi si continuerà. Ok. Poi brucierei tutto. Non posso. Lo dirò al barone. Cioè, veramente non vogliono bruciare tutto solo per... Ma ragazzi, se andassimo dentro la casa, poi dopo un po' aspettiamo un attimino e facciamo... Ah, stanno andando tutto a puttane! Loro danno fuoco e noi usciamo. Usciamo con calma. Non sarebbe una cattiva. No, uno di noi esce tipo, oddio, stanno uccidendo tutti. Non ce la faremo, salvatevi. Vabbè, io poi... Cioè entriamo, ti faccio, dammi un pugno. Vabbè, un pugno allora, dal laboratorio apriamo la porta che tanto l'abbiamo già sfondata. Sì, quindi. In realtà abbiamo illuminato praticamente tutto se rompiamo tutte le finestre. Cioè rimane il vano scale. Parte. E poi vabbè, qua nelle cataste di legna possono sicuramente trovare riparo. Ok. O dentro le bare. Poi anche il vano, sì, se la porta è chiusa. Se fossero dentro le bare magari. Beh, è giorno, può anche darsi. Ok. Ok, quindi per la prima volta vedete che cosa c'è nella secondo piano, nella stanza grande, perché lì non ci eravate mai entrati. Forse è l'unico Sal che era andato in giro. Era andato in altre stanze. Era solo di là. Ah, siamo saliti sopra, quindi? Con rompendo le finestre. No, rompendo le finestre. Ah, okay. Del secondo piano. Visto che comunque sto piano ha 1, 2, 3, 4, una finestra. E cosa c'è qui? Lì c'è 5 il... magazzino, c'è questa grande stanza piena di ragnatele che copre la maggior parte della superficie del secondo piano e un sacco di come si chiama? Tavole di legno accatastate e ci sono delle casse con sopra la scritta spazzatura. rifiuto, insomma, junk, rifiuti. E rifiuti al piano di cioè sì, il junk come lo si traduce? Cioè scarti, sì, forse sì, intendere scarti sì, di lavoro. Sì, sì. Okay. E niente, rompete tutte le finestre. E quindi poi mettiamo i pezzi nel coso, ho scritto junk. Ricicliamo. Da dove entriamo? Da sotto direi. Vabbè, quindi guardando tutto non si è visto nessun movimento. Non si è visto nessun movimento. Beh, però potremmo entrare direttamente da sopra, abbiamo rotto la finestra. Sì, ma che non saranno mai quali progeni comunque c'è. Potrebbe essere anche lì, però. Oh, in realtà a questo punto ha valore la cosa delle bare. È l'unica stanza buia. Entriamo direttamente. Che è l'unico modo cui non posso andare. Io cercherei dentro le bare prima. Perché sì, qua non ci sono finestre. No, al contrario, è l'unico modo di stare a buio, dico, stare dentro le bare. Che il resto è tutto alla luce del sole ormai. A parte il vano scale, quindi adesso è tutto illuminato. Cioè. Quindi basta aprire la bare e fare buh, e allora muore. Noi entriamo, quindi andiamo in questa sala qui? Sì, sì. Direi di andare tutti... Ed è tutto fermo, giusto? Sì. Ok, possiamo fare un... Entriamo da qua, dalla porta. Proviamo a fare silenziosamente... Non so, tu puoi percepire quale in un morto. Lui può percepire in un morto. Io lo scazzo. Lui no. Questa qua apriamo. Questa qua a sinistra. Allora, percepisci il male, tu non so cosa puoi fare. Tipo. Se avessi scelto tra gli incantesimi detect. No, non tra gli incantesimi. Tra cosa? Col channel. Con. No, aspetta. Cosa da paladino, che non so perché non hai ancora usato. Non lo uso mai. Senti il potere della forza oscura. Lo uso solo per invecchiare i bambini. Aspetta. Di solito faccio altre cose. Paladino tipico. Tu di abbiamo fatto l'obiettivo, saliamo? No, non l'hai già fatto. Il 4 l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto dell'expo, perché abbiamo fatto un obiettivo. Ci sale solo a nessuno dei due abbiamo fatto la scorsa sessione. Tecnica. Non uccidere tutte le persone dentro la chiesa. Davvero? Non uccidere uccidere a Giulio. Salvare una certa persona. È vero, hai ragione, ce l'ho. Prete. Interessante. Un personaggio fa altre cose da camminare. Di solito non meno mai. Quindi il mio personaggio fa proprio niente. Io non meno, io puro. Io di solito do aiuto ai miei compagni. Il personaggio fa altre cose da camminare. Prepariamoci prima di entrare. Cioè... Posso aprire la mia capacità, come si dice? Conoscenza. Vabbè, consapevolezza. È tutto personaggio. Puoi aprire i tuoi chakra. Però per un turno alla fine, vabbè, siamo qua adesso, lo fai un attimo, ci vuole quindi. Ma quanto ti costano? Puoi fare random tutte le volte? Azione. No, non so quante volte in realtà. Uno più il mio coso di carisma, che comunque vuol dire quattro volte. Quindi ne posso breve? 18 di carisma? O 16 di carisma. Ah, uno più 3. Beh, buono. No, buono. Vai, entro, 60 piedi, sento male, prima ti fermo. No. Ci sta già dentro. Cosa vuoi sapere? Sento anche te. No. No, perché non sono una creatura sovrannaturale. Ancora. Però il male sì. No, volevo dire che prima magari è meglio pomparci nel caso. Che schifo, blesso, tu sei un solito maiale. Andiamo così. Ne mettiamo i pantaloni e andiamo dentro. Tanto quanto dura? Un minuto. Ah, vabbè, aspettiamo. Però il discorso è che se qua non c'è un cazzo, non possiamo pomparci. Dopo perdo un incantesimo. Vabbè, dopo tanto non andiamo da nessuna parte perché non sappiamo dove sono. No, andremo a cercare. Vai, alla sua soglia io faccio questo intanto. Divine Sense. Ok, 60 piedi cioè dice che viene bloccato da dei materiali. Dal legno. Continua. Solo dal legno. Dal legno di bara. Che. Ah no, vedi. 60 piedi che non è dietro copertura totale. Dice così copertura totale. Cioè, quindi in realtà se è la bara è copertura totale. Non passa attraverso il legno. No, lo so. Total cover dice. Beh, saranno un po' usurate, dai, avranno dei buchi. Boh, un po' strano, però. Cioè, però... alla fine in teoria è una percezione, non è una cosa che dovresti vedere. Speriamo ci fosse la solita frase con... No, è perché tu magari puoi usare su di essere viventi. Cioè, tu vedi una folla, lo fai e trovi chi magari non c'è. Speriamo ci fosse la solita frase, può essere bloccato da una lastra di piombo, forse... Non è che sono in un esame di... radiografia. Cioè, tu è come se valutassi ciò che hai davanti. Oddio, parla proprio del vampiro Count Strad von Zarovich, for instance. No, sono serio. Sì, serio. Dice che puoi capire la presenza, ma non la sua identità. The vampire Count Strad von Zarovich, for instance. Io non posso sapere che c'è un non morto, ma non che sia Conte Strano. Tanto l'unico che non chiama per saperlo è anche che fa Conte Strano. Vabbè, allora chiedo un'accetta. Total cover. Accetta. Vabbè, ma prendi da. C'avrà. Aspetta, però sento anche la presenza di posti o oggetti consacrati o sconsacrati. As with the Hallow Spell. Esatto. Quindi non devi trovare istantaneamente. Qui non ce ne sono. No. No. Lui se lo usava in chiesa quando c'era la reliquia dentro, percepisce sì. che c'è un incantesimo consacrato. E non percepisci non morti. Ah, esco, chiedo un'accetta. Ti danno un'accetta. Prendo un'accetta, vado alla prima barra, la sfondo. È vuoto. Vabbè, la seconda barra. Vado a quest'altra barra sotto la finestra, la sfondo. È vuoto. E se proviamo ad aprirle e se c'era dentro. No. Beh, uguale. Uguale. Comunque, vabbè. Tanto siamo alla luce del sole. Quindi. Vai. Cerchiamo di tutto. Trascino questa barra qua e la sfondo. Indovina. Eh? Indovina. Sono tutte vuote, giù. C'è il conto strano. Le sfondo tutte. Sono vuote. Faccio una pira qui, da fuoco esco. C'è stato un incidente. Vabbè, sono solo due piani questo posto. Sì. Oddio, Giulio. Cerchiamo. Diamo fuoco a tutto, urliamo. Esplosa la polveriera. Cos'è? Guardo il soffitto. Dipende che come Perception. Fai. Perception. Se guardi Perception, se deduci Investigation. No, faccio un'investigation per capire dove potrebbero essere, se c'è qualcosa che mi fa capire. Beh, Mi do anch'io, mi do un vantaggio. In che modo? Dicendo quindi elementare Watson. No, no. No, però io investigation ce l'ho sempre avuto tantissimo. Io, il personaggio no. Beh, tiralo anche tu. Non ce l'ho. 21. Bravo Giulio. Ma non sarà mai come il mio 20 naturale. Le casse che avete visto al secondo piano erano abbastanza grandi e grosse da contenere. Cioè, tu hai sfondato tutte le casse tipo grandi così? No. No, le casse è l'altra. Immagino Giulio con i coci. In effetti io sono stato attaccato al secondo piano. Cioè le casse, nel senso di casse, non bare. Proprio di casse, quelli che ho scritto progenie sopra. Forse. Allora vi faccio cenno di andare sulla porta un attimo. Aspetta, io potrei consigliare questo. In un gruppo andiamo su a piedi e poi... Sì, finora questa cosa la so io. Ma vorrei dire. Poi vi dico... Usciamo un secondo. Ok. Poi vi dico, usciamo potrebbero essere... E perché dovevamo uscire per dirlo? Perché così non sentono loro e magari non capiscono che abbiamo capito. Allora, potremmo in un gruppo andare su a piedi e gli altri con le scale stanno già pronti alle finestre. Beh, in realtà possiamo già circondare le casse. Scusa, ma se diciamo che a tutte le guardie gli sparano... Ah no, perché non vuoi imbruciare le cose. A parte che noi non sappiamo se ci sono dentro, tu stai pensando che forse sono lì. Vabbè, io non ho mai sbagliato. Se due arrivano su con le scale e intanto noi con un gruppo andiamo su da dentro. Quando sono le casse grandi lì quel piano che dicevi tu? Così se c'è qualcosa che non va, gli altri dalle scale ci urlano. Perché tu dici che percepiscono che uno si avvicina? In quel senso? No, dico che così entriamo nella stanza che voi già ci state guardando dentro. Sono sei casse al piano sotto. O almeno uno o due stanno già guardando dentro. Una, per cui se c'è tipo dentro, che nel frattempo sono lì tipo con i mitra pronti a spararci. Magari loro hanno già capito che abbiamo capito e loro no, si preparano. So. Ah, in realtà, ribadisco, c'è la luce del sole però, eh? Sì, in teoria quindi sì. In teoria non possono uscire dalle casse. Se sono la progenie vampirica ad aspettarci. Beh, magari alcune casse tipo questa qui un po' no. Incastrata in effetti potrebbe essere all'ombra. Secondo noi tutte le... Cioè come funziona la cosa della luce del sole? Deve essere diretta? Deve colpire. Sì, direttamente? O se c'è un po' di luce nella stanza? No, il raggio solare. Ma se no saliamo tutti... No, teniamo le scale, teniamo comunque per via di fuga. Tanto comunque loro non possono uscire a fare una corsa in mezzo alla luce solare. Quindi apriamole lì. Comunque teniamo due scale come via di fuga. Sì, possiamo aprire le casse e pisciarci. Ci mettiamo le scale dalle finestre e magari i due più agili si mettono lì. Due salgono da qua. E vai. Si mettono lì alla finestra a guardare. Gli altri intanto salgono da lì. Direi tu e Lux. Io sarei quello agile? Non certo io. Va bene. Ah. Oppure... Io sono letto vado però. Io lì sono inutile. Vabbè, che parte agile c'hai una scala, non ti serve essere agile. Sulle pareti. sì, beh, arrivo a essere in prima linea se serviva. Vabbè che sono lì. Ma siamo tutti. Va bene. Basta che ti busi alla finestra. Dentro dico. Dividiamoci. Lui è quello che magari può fare. Perché non è sulle pareti nera, non è che va di nera. No. Facendo mentre salgo sempre. La salgo. Beh, allora, fuori dalle scale scegliamo due persone che vanno alle scale. Vado io, vado dalle scale. Vai, intanto quando si ha nella stanza faccio un altro. Tanto ormai li fai, se li hai lo fai. Esatto. Non percepisci la presenza di... Perché non lo usi mai? Vabbè, entriamo qua. Ok, entrate nella stanza che avevo descritto prima, piena di ragnatele di polvere e di quindi prende bene il fuoco. Tavole di legno. Sì, prende molto bene. Piena di tavole di legno e di queste casse con scritto spazzatura sopra. Apriamo Brusco. Quelle con solo scritto progenie. Ma a questo punto vi darei comunque il bless. Direi prima questa qui. Lo so. Che è vicino a questa finestra. Ma qualcuno di voi sa, ve lo chiedo in gioco prima, diciamo così, cosa fa la luce del sole? 2 di 6 danni radianti. No, di più, molti di più. Sì. Non rigenera. Ogni round 20 danni. Okay. E non rigenera, quindi in realtà in termini di ruolo e non di gioco, in un minuto muovono il sole. Se sappiamo che se stanno un po' il sole muovono. Sì. Quindi in realtà possiamo semplicemente aprire le casse e andarci. Sì. Si nasconderebbero. Sfondiamo questa. È piena di terra. E praticamente la terra è a forma di. Scusa, io sono ciambone. No, è come se fosse una. un giaciglio, no, un giaciglio. C'è un'orma. Ah, sì, che non c'è niente. Esatto. Magari erano le cose delle progenie, ma non ci sono adesso. Vabbè, intanto ogni distruggiamo. Faccio la prova di cercare dentro il coso del giaciglio lì se c'è qualcosa per curiosità. Annusa. Trovo della terra. Vabbè, scusa. C'è della terra qua dentro. Beh, prego gli altri. Cercare che ragazzo è. Boh, se no dipende, se cerchi tracce, survival, dipende cosa cerchi. 14, se qualcosa colpisce la mia vista. Un buco nel. Vai, apriamo un'altra cassa. Vabbè, andiamo all'altra un'altra cassa. Cioè, più la prossima, next, tipo, questa è una cassa? Sì. C'è scritto però nitro in questo, cioè, non progenio. È vero, c'è scritto nitro. Si muove. Questa qua catta. La piano. Che non è una cassa, sono solo quelle queste casse. No, ma sì, sono girando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casse. Sì, no, è una cassa, grazie. Quella, ma non c'è scritto spazzatura sopra, è una cassa normale. Beh, prima di quella comunque. La apri ed è piena di pezzi di legno e di accendere. E di tronchi. Apriamo questo qua nell'angolino. Oddio. Di nuovo terra. Sempre col giaciglio. Sì. Questa? No, ma ribaltiamo i giacigli. Giusto per far casino. Sì. Ok. E anche quelle sono vuote. Vabbè, apriamo, cioè, sono piene di terra con l'orma di una figura umanoide che la occupava. Comunque siete stati molto prudenti e il piano era abbastanza buono, quindi beccatevi un inspiration. Ma chi l'ha fatto, dai? Praticamente le guardie. No, niente, io, no, va bene, va fa culo. Ma la prossima volta vai a morire, cioè. Ma quindi io non sono qui, che era quello che io avevo detto inizialmente. Sì, ma adesso lo sapete. L'avevamo detto delle prove. Era giusto controllare. Come se adesso usciamo e loro danno fuoco. Ah. Ok, cosa fate? Dite come era, come detto. Usciamo e diciamo alle guardie che le abbiamo uccise. Mi affaccio alla finestra. Le abbiamo uccise! Non sono, non ci sono qui, come normale che sia. Abbiamo trovato i giacigli, sono vuoti. Ma è logico che bene sia. Vi ringrazio, comunque un'informazione importante. E adesso qual è il piano, capitano? È quello di cercare lungo e largo qualsiasi cosa sospetta. Faremo la prossima puntata, però. Yes. Va bene, avete visto l'ottavo episodio della maledizione di Katta. Oddio. E abbiamo incontrato un altro simpatico personaggio. È un mio di ritardo, c'è. Sì, ma questo no, questo non c'è ritardo. Sì, sì, non c'è. Guarda, guarda, tacca, c'è giù. Se guardi là devi ancora cominciare. È proprio come guardare le partite sulla zona, lo stesso effetto. Che belli sono lì. Minchia, arriva domani. Bello. Vabbè, comunque. Quanto stai bevendo? Ah, è questo qua pieno, non l'ho bevuto. Grazie per averci seguito. E ai prossimi episodi di Tycoons and Dragons, che non sappiamo quando saranno, ma ci vedranno. Che sarà? Sarà al quarto livello. Va bene. Ancora qui. Aspetta, adesso arriva. Che tensione. Veramente è... No, si è bloccato. No, eccolo. Eccolo, attenzione, sta pensando alla cosa da fare. Un po' col cellulare perché non mi dà in tasca. Eccolo! Eccolo! Va bene. Abbiamo anche il fermo immagine. Ok, fantastico. Lo fa, dai, che lo fai talmente veloce che non si vede, sembra fermo. Sta guardando Argy che lo sai, quelle mosse. Va bene, buonanotte a tutti. Buonanotte. Quanto devo per la pizza, Vez? È 5 euro. Immagino sì. Era tipo 5,50. Ti credo.